Ciao, sono Marco Casa, falegname, commercialista e social media manager. So fare tutto, proprio come il mio Citroën Berlingo. A partire da 18.000 euro oltre IVA. E da oggi sulla versione elettrica Easy Wallbox inclusa nel prezzo. Offerta valida fino al 31 dicembre 2023. Info su citroen.it. Il doppiaggio italiano è un passo importante per la completa localizzazione di un videogame. Ma come funziona? Chi ci lavora? E soprattutto, come? Carlo Burigana ci introduce nel complesso e inesplorato mondo del doppiaggio videoludico per scoprirne pregi, difetti e possibili evoluzioni. Prossimamente, solo su Dietrologia Videoludica. Ciao a tutti amici Archeologia Videoludica, se sentite la mia voce non dovete preoccuparvi, ma è solamente un nuovo tentativo di golpe dopo quello attuato su Calavera Caffè. In pratica sto cercando di destituire il buon Simone Pizzi, però lui ancora non lo sa, e mi ritrovo qui a registrare un nuovo episodio di Archeologia Videoludica insieme a un compagno misterioso che fra poco presenterò. Come avete sentito inizialmente prima dell'episodio, avete avuto modo di vedere uno spot per un episodio futuro di Dietrologia Videoludica dedicato al doppiaggio. Ecco, ci teniamo a presentarlo perché veramente sarà un episodio davvero interessante, davvero importante, quindi non, assolutamente, non perdetelo. Ok, sentite questa voce che si è appena autopresentata, perfetto. Sì, con questo assolutamente, vabbè, sono Mascherò Tamigi. Forse mi conoscete per qualche video pubblicato sul Games Italia. Sono molto contento di fare questo primo podcast insieme al grandissimo Roberto qui, e soprattutto su un grandissimo tema come gli shooter, che hanno poi definito il genere, no? Ancora oggi, insomma, sono dei capolavori che fanno comunque breccia, no? Sul cuore di moltissimi retro gamer, ma anche non solo, direi, no? Retro gamer. Direi parole sante, parole perfette. Appunto, una breve presentazione. Appunto, Mascherò Tamigi è un amico che collabora con il Games Italia. Sì, felicemente anche. Ti ringrazio. E appunto, da questo episodio entra a far parte al 100% dopo lo shot registrato nella famiglia di Archeologia Videoludica. Grazie per il benvenuto, sono molto contento di farne parte, perché ho ascoltato moltissimi di questi podcast e non vedevo l'ora proprio di far parte di uno di questi podcast appunto iniziali. Sono molto curioso di vedere come va, quindi scusatemi se magari sarò un po' impacciato, però darò il mio meglio, via. Tranquillo, non preoccuparti, tanto alla fine diciamo che il meglio lo potrò raggiungere solo io a livello di impaccio, quindi non preoccuparti. Prima di iniziare diamo i nostri soliti riferimenti, quindi il nostro sito www.archeologiavideoludica.net, il Twitter @videoludica, poi abbiamo la nostra pagina di Facebook e di Google Plus, che purtroppo non è così frequentata ma esiste, e poi la nostra consueta mail archeologiavideoludica@gmail.com. Detto questo, potete trovarci come sempre anche sul Games Italia, il nostro forum di riferimento, quindi anche per eventualmente commentare la puntata, lanciare qualche spunto di discussione, approfittatene pure, siamo solamente felici. Esatto, quindi venite sul forum a farci compagnia, perché è il primo posto dove poter comunicare tutti insieme con tutti gli aggiornamenti, insomma anche le varie patch, no? le traduzioni. Sul forum ci sono tutti i dettagli, quindi venite assolutamente con noi. Perfetto, quindi come dicevamo appunto potete trovarci su Games Italia, e il tema della puntata, come avete avuto modo un po' di capire, è un tema veramente importante. Parliamo di Doom, che quest'anno festeggia i 20 anni della sua creazione, anzi, per noi per essere più precisi li ha festeggiati l'anno passato quando ha progettato la puntata, però per ovvi motivi registriamo purtroppo solo ora. È, diciamo appunto, una pietra miliare della storia videoludica, un vero e proprio capolavoro giocato ancora da schiere di real gamers, e quale migliore occasione che appunto coinvolgere un vero appassionato come Mascherò in questa discussione. Assolutamente, insomma, sono cresciuto con gli FPS, anche se diciamo che per ovvie ragioni di età mi sono più dedicato a Doom 3, Doom 3, Duke Nukem 3D, poi Quake, eccetera, però il bello è che sono riuscito a riprendermi anche le vecchie glorie come Wolfenstein e Doom, che poi sono delle pietre importantissime che ancora oggi sono giocati, quindi indipendentemente da quello che è il periodo storico che uno vive giocando questi titoli, può riprendere. Il bello di questi giochi è che si possono riprendere in qualsiasi momento e si ha ancora il feeling di qualcosa che ha creato, no? Un genere ancora continua a delineare qualcosa di importante, quindi la sua importanza rimane sempre ancora oggi in qualsiasi momento. Perfetto, vedo che appunto il buon Mashiro è sul pezzo, quindi possiamo tranquillamente iniziare e buttarci nel Barnet College. Benvenuti quindi nel nostro angolo dedicato proprio ad approfondire la tematica della puntata, e per iniziare vorrei lasciare la parola al mio amico Mashiro, che ci introdurrà un po' quello che è il padre spirituale di Doom, ovvero Wolf 3D. Alla parola, Mashiro. Sì. Allora, questo Wolfenstein 3D, no, che è appunto conosciuto come Wolf 3D alla fine, è un titolo del 1992 creato dalla grandissima e inimitabile, fino a un certo punto comunque almeno nella storia dei videogame, inimitabile ID Software, è pubblicata dalla Apogee Software, che poi è la casa che è responsabile per altri titoli grandissimi dell'epoca, e personalmente un altro FPS che mi è rimasto particolarmente nel cuore, ovvero sia Rise of the Triad, ma questo è un altro aspetto. Sicuramente la parte più importante di Wolfenstein 3D è il fatto che ha creato, no, un genere, quindi noi vedevamo il nostro personaggio, anzi vedevamo soltanto l'arma con le mani, e praticamente il tutto era ambientato in questo castello popolato da nazisti, diciamoci le cose come stanno, tant'è vero che anche questo elemento di ambientazione poi ha creato tantissimi problemi anche a livello proprio storico, tanto è vero che in Germania fu bloccato perché tematiche, nazismo, violenza, eccetera eccetera. Ricordiamoci sempre che, non vorrei spoilerare qualcosa, però in Wolfenstein 3D si combatteva direttamente Hitler, no? C'è sempre questa immagine, però il nostro compito, impersonando il soldato Joseph Blazkowicz, era uccidere orde di nazisti in questo castello, no? I vari livelli erano la parte più importante del gioco, direi, perché oltre ad avere questa visuale in prima persona, i livelli erano sostanzialmente dei labirinti in cui c'erano tantissimi segreti, quindi qui si vede subito un piccolo accenno del level design particolare, no? Che poi ha caratterizzato sicuramente Doom, Duke Nukem, quindi questi labirinti con tantissimi segreti da dover scovare, con dei power up, con delle armi nuove, il tutto mentre si uccidono dei nazisti. Quindi assolutamente il primo impatto con questo gioco era eccezionale, prima di tutto per la visuale, quindi si sentiva proprio il feeling di essere dentro il gioco, e questa è un po' il leitmotiv, no, di questi FPS, il fatto di essere dentro l'azione, essere dentro l'esplorazione, e quindi di incontrare tutti i vari mostri e esplorare i vari livelli. Quindi la trama, ecco, un piccolo accenno sulla trama che secondo me in realtà è molto importante, perché seppur appunto noi impersoniamo questo personaggio di Joseph Blazkowicz, che è un soldato statunitense che però è di origine polacca, impegnato a uccidere le armate naziste in questo castello, è stupefacente come l'evoluzione, no, della storia, della trama di Wolfenstein sia arrivato tuttora ai giorni nostri, perché oltre naturalmente al primo titolo abbiamo avuto Return to Castle Wolfenstein, che è stato un altro capitolo molto importante, seppur più moderno, anche per il lato multiplayer, e poi c'è questa storia, quest'ultimo capitolo che deve uscire in questo, tra l'altro oggi mi sembra hanno aggiunto la data, no, che uscirà probabilmente a maggio. Comunque c'è questo capitolo che sarà molto story driven, e si vede proprio che il personaggio di Joseph Blazkowicz ha comunque un fascino tuttora. Quindi bisogna capire un attimino, se partiti da Wolfenstein 3D, che non aveva una trama ben specifica, come per esempio anche Doom, in realtà poi ci sono, però non aveva una cosa raccontata come adesso, eppure il suo feeling, il personaggio è rimasto fino ad oggi. Questa secondo me è una cosa molto importante. Poi c'è il gameplay, c'è tutta la questione dei nazisti, c'è il fatto di poter esplorare questi livelli che sono poi dei labirinti e di affrontare i classici capitoli della storia. Però come il personaggio è rimasto dal primo Wolf 3D fino ad oggi è una cosa incredibile, perché proprio nel primo Wolf 3D avevamo soltanto, come poi anche in Doom, avevamo soltanto il portrait, no, del nostro Mino. Poi dopo però si è evoluto anche il personaggio, quindi è una cosa molto interessante. Io ricordo il mio primo appunto gameplay di Wolf 3D è venuto dopo aver giocato Duke Nukem 3D, perché io sono un po', ho spaziato prima con altri giochi più moderni, poi con giochi più vecchi, però il fascino di questo gioco secondo me ancora rimane, anche perché è stato poi portato in tutte le piattaforme di gioco, Super Nintendo, anche se Super Nintendo ci furono problemi proprio con la Germania per via di questi nazisti, però è importante come questo titolo, uscito su tantissime piattaforme, ha poi contribuito alla nascita di veri e propri miti, e in particolar modo di Doom. Non so se tu hai mai provato questo gioco, sicuramente sì. Non so qual è stato il tuo feeling, no, nel provare Wolfenstein 3D, però sicuramente la cosa principale è il trovarsi dentro l'azione, poi la cosa più importante, no, dell'FPS, essere dentro. E il Wolf 3D forse è il primo gioco che riusciva proprio a farti sentire dentro un mondo che tu vedevi soltanto con i tuoi occhi, e questa è la cosa più importante di Wolf 3D. Sì, sicuramente, considera che personalmente è stato il primo gioco del genere che ho giocato ai tempi, quindi l'impatto è stato sicuramente sconvolgente dal punto di vista ludico. Ricordo poi alcuni particolari del gameplay, quindi ad esempio passare tutte le pareti di ogni livello a ricerca di segreti, continuando a schiacciare la barra spostatrice per aprire una porta. Oppure ricordo le prime arrabbiature con i cani, che sono i primi nemici che si incontrano nei livelli, nel primo livello, e non ti aspettavi una cosa del genere, quindi mi era capitato di morire subito. Anche perché tu pensa che oggi si fanno tante storie sulla violenza, su queste cose, ma noi un tempo uccidavamo i cani, cioè praticamente combattevamo già subito contro dei cani e li praticamente li squartavamo, anche perché era molto violento, no, come titolo. E invece c'è anche questo paragone, perché oggi c'è questo focus sulla violenza spicciola, però per esempio in Wolf 3D c'erano pastori tedeschi, c'erano soldati. Mi ricordo anche che quando si uccideva qualcuno, cioè uccidendo degli ufficiali, si prendevano 400 punti, no, mi ricordo, quindi c'era anche questo concetto: più uccidi più fai punti, era una cosa che si usava, no, avere i punti, perché poi si trovavano anche armi, oltre alle armi oggetti, tesori, come hai detto giustamente tu, pigiando la barra spaziatrice per trovare tutte le porte segrete. Esatto, e poi diciamo che appunto ha introdotto due elementi importanti che poi emergeranno penso in maniera fragorosa con Doom. Il primo è la velocità del gameplay, nel senso che appunto il giocatore letteralmente volava all'interno del livello, tant'è vero che penso è stato uno dei primi titoli che poi è stato protagonista di quelle registrazioni in cui si cercava di finire tutto il gioco nel minor tempo possibile, al di là che anche Doom poi ha ricevuto lo stesso trattamento. E in seconda battuta anche la possibilità di avere un mondo che sembra realisticamente in 3D, quindi un vero senso di profondità, di spazio, di prospettiva, sebbene poi alla fine Wolf 3D non lavora in questo senso, ma dà proprio una parvenza tra di, vedi anche ad esempio i nemici che sono dei semplici sprites, però esatto, diciamo che sì, sicuramente ci sono degli elementi importanti. E direi a questo punto che magari possiamo entrare proprio nel vivo del discorso, andando a toccare un po' quella che è la genesi di Doom, sempre che tu non voglia aggiungere qualcos'altro su Wolf 3D. Beh no, penso che sia importante capire alla fine che Wolf 3D, seppur nella sua semplicità, perché uno potrebbe anche guardarlo cioè oggi con gli occhi moderni e dire ok, questo gioco è molto semplice, perché poi ricordiamoci che Wolf 3D rispetto a Doom ha visto sì delle mods, questo magari è un argomento che vedremo dopo, però Doom tutt'oggi è molto vivo grazie a dei mods che l'hanno ringiovanito molto, no? Invece Wolf 3D un po' di meno. Per esempio ho provato di recente la mod per Doom, Brutal Doom, che è assolutamente spettacolare. Cioè, se tu oggi rigiochi Brutal Doom, è praticamente Doom con la stessa fisiologia di gioco, però la mod lo rende particolarmente nuovo. Invece Wolfenstein magari non ha avuto lo stesso destino, anche perché diciamo che ha avuto più uscite, no, della sua saga rispetto a Doom, perché Wolf 3D ha avuto il suo primo capitolo in 3D, poi però ha avuto anche un capitolo chiamato Return to Castle Wolfenstein, che ha anche creato un immaginario multiplayer, quindi c'è anche questo fattore. Però rimane il gameplay, come giustamente hai detto tu, proprio la sensazione di movimento, di azione continua. Quindi direi di passare direttamente al focus reale della puntata, questo Doom, no? Che, insomma, tanti auguri, anche se un po' in ritardo, almeno per quanto riguarda il podcast. Però. Sì, ma tanto i nostri ascoltatori ci ascolteranno magari anche fra altri 20 anni, quindi potrebbe essere comunque un'occasione per festeggiare, mettiamola così. Sì, diciamo che appunto è importante dare qualche accenno in generale, prima di entrare proprio nello specifico del gioco, al come Doom si venne partorito nelle menti dei suoi creatori. Ricordiamo che id Software aveva due grandi menti a proprio capo. Da una parte abbiamo Carmack, che è sicuramente uno dei migliori tecnici mai visti lavorare appunto sul computer, comunque sulla programmazione, ancora oggi. Sì, condivido. Ancora oggi, pur avendo lasciato la sua casa natale, ed è stato l'ultimo dei grandi vecchi della casa ad andarsene, sta lavorando sulla Oculus Rift, quindi comunque è sempre diciamo in prima battuta sul discorso tecnologico. E poi d'altra parte, diciamo, il contraltar di questa magica coppia è quel John Romero, che in qualche modo incarna l'anima poetica del gruppo, quindi quello un po' più il visionario della compagnia. Sì, sì, un po' più il metallaro, no? del duo, un po' più il ribelle, diciamo. Esatto, e di entrambi, la loro amicizia, di come nacque la loro software house e di come svilupparono anche i loro giochi, vi consiglio un libro che stiamo utilizzando anche un po' come base per questa puntata, che è Master of Doom, edito in Italia da multiplayer.it, che appunto racconta un po' la genesi e le influenze che questa software house ebbe sia sulla cultura videoludica che anche sulla vera e propria cultura popolare, tanto è vero che in America in alcuni ambienti si parla proprio anche di Doom Generation, giusto per dare un'idea dell'impatto, certo, sì, che ha avuto questo gioco. Diciamo un po' della genesi. Come giustamente ha accennato Mashiro, nel 92 usciva Wolf 3D e a quel punto il gruppo era pronto per creare qualcosa di nuovo, qualcosa di veramente innovativo che in qualche modo potesse dare nuovo spazio, nuova aria a quelli che erano un po' le mire della software house. E inizialmente diciamo che attenzione di id Software era orientata su fare un gioco dedicato a Aliens, un film che in qualche modo aveva colpito l'immaginario degli sviluppatori. Però arrivati a quel punto c'era sicuramente un problema, ovvero l'utilizzo della licenza in qualche modo poneva dei vincoli. E per una software house, per dei ragazzi abituati sempre ad andare per i fatti loro, per conto loro, per abituati a spaziare dovunque la loro immaginazione li portasse, questo era un vincolo probabilmente troppo importante, grosso e pesante, sì. E quindi siamo rimasti un po' legati comunque al discorso fantascienza e unito a quello degli incubi dei demoni. Poi magari sulla trama lascerò spazio a Mashiro per raccontarla, però era importante un po' diciamo accennare questa cosa perché all'interno di queste vicende vediamo l'abbandono di uno degli altri membri storici della casa, ovvero Tom Hall, che in qualche modo in contrasto con quello che era la decisione della software house, infatti lui voleva fare un nuovo episodio di Commander Keen, venne lasciato in disparte e lasciato andare appunto via la software house. Diciamo appunto che la nascita idea è stata quello di partire un po' al discorso fantascienza, ma c'è un altro elemento veramente importante che quindi ritengo che sia proprio da accennare per quanto riguarda l'importanza storica, ovvero il Doom Engine, ovvero il motore grafico su cui tutto il gioco un po' poggiava. Perché accennarlo? Perché, come dicevo poc'anzi, la mente dietro Doom, Carmack, era veramente qualcosa di fenomenale, e per introdurre il gioco, per poterlo rendere ancora più veloce, quindi con un gameplay ancora più rapido e immediato, e qui mi allaccio un po' al discorso che facevo prima su After D, cercavo di trovare una strada che permetteva in qualche modo di, pure in un codice già ottimizzato, ottenere risultati sempre più eclatanti. E qui cosa succede praticamente? Che il nostro viene a conoscenza di una stazione di programmazione, adesso scusate la pronuncia se magari non è ottimale, chiamato Binary Space Partitioning, partite learning, scusate. Partite, okay. Va bene così. Oppure più brevemente, così almeno Simone è contento del fatto che non dico subito la versione più rapida, BSP. E in pratica come funzionava questo sistema? Permetteva di rappresentare un mondo in 3D, quindi un rendering dei modelli tridimensionali dello schermo, ma caricando solamente quelli visibili da un determinato punto di vista, praticamente caricando solamente quei fogli, appunto, questo è il termine tecnico, di dati che in quel momento erano necessari. Questo cosa comportava? Chiaramente un risparmio di memoria e un'ottimizzazione dell'intero codice. Quindi con questo breve e quanto mai semplice, sulla parola, che sulla carta sicuramente è tutto un altro discorso, questo breve semplice accrocchio tecnico riuscì a donare a Doom quello spinto in più, quel punto di, come posso dire, appunto il punto di miglioramento che era necessario per poter veramente impattare sul mercato in maniera importante. Considerate che al tempo, praticamente in maniera quasi parallela a Doom, uscì un altro videogioco che faceva del 3D un po' il suo altare, ovvero Myst, ma chiaramente ci troviamo su due mondi differenti. Mentre Myst è un insieme di bolle statiche, Doom ti buttava veramente dentro un mondo di gioco, e quindi chiaramente si lavorava su altri livelli. Non so se ti ricordi e se hai qualche impressione sulle prime volte che hai visto avviare Doom, però io ricordo veramente il contrasto con Wolf 3D, perché sicuramente, pur avendo una parentela stretta, si capiva che era un altro livello evolutivo, e poi appunto l'immediatezza con cui ci trovavi in questo mondo di gioco. Ma guarda, io mi ricordo il mio primo, proprio la prima immagine di Doom, perché come ti ho detto io ho spaziato, no? Prima sono andato con Duke Nukem 3D, poi mi sono rigiocato Wolf 3D, Doom eccetera, quindi mi ricordo benissimo che entrai a casa di un mio amico di infanzia ovviamente, e lui aveva questo 486 di quelli compatti probabilmente, e stava giocando a Doom, e io ho detto: minchia, ma cos'è sta cosa? Ma dov'è il personaggio? La prima cosa che gli dissi è: ma il personaggio ando sta? Cioè, qual è il personaggio? E lui mi fa, proprio come se fosse una pubblicità anni 80, anni 90, si gira e mi fa: ma sono io il personaggio? E quindi lì ho capito che si stava parlando di qualcosa di completamente originale, quindi ebbi questa visione di lui che esplorava questo livello in tre dimensioni, era assolutamente eccezionale, tanto più che praticamente è da lì poi iniziata la mia fissa per gli FPS, che ancora oggi continua. Però l'impatto, come hai detto tu, è qualcosa di proprio spiazzante, anche se uno era già abituato, no, a Wolf 3D, comunque aveva un accenno con Wolf 3D, Doom ha un impatto diverso secondo me. Sicuramente. Però all'interno di tutto questo, appunto, di questo contesto che sto un po' raccontando per entrare nello specifico del gioco, rimango ad accennare altri due elementi che ritengo particolarmente importanti. Sicuramente uno spazio importante, appunto, è quello dedicato al modello distributivo, nel senso che approcciamo un modello distributivo detto shareware, che sì, purtroppo ora è stato abbandonato, ma che ai tempi vedeva un po', visto un po' il suo periodo d'oro. Spieghiamo brevemente cosa sia. Praticamente shareware erano tutti quei giochi che ti permettevano di acquistare o addirittura scaricare in maniera gratuita la prima parte del gioco, quando per acquistare intendo proprio a un prezzo irrisorio la prima parte del gioco, una sorta di demo allargata, se vogliamo essere un po' collegati con... Sì, una trial, una specie di sì, demo allargata funziona. Esatto, okay. Vogliamo appunto collegarci un po' a quello che è l'esperienza magari odierna dei giocatori, ma che dà veramente la sensazione di poter provare appieno il gioco, di poter entrare nelle dinamiche, di capire veramente il gioco come fosse. Considerate che Doom era diviso in tre episodi. La parte shareware, quindi quella che era possibile scaricare in maniera gratuita, era il primo livello di 3 in pratica, nonostante appunto la longevità comunque era consistente, e si calcola che ha avuto all'incirca 15 milioni di giocatori. Quindi potete immaginare che se all'epoca uno dei giochi più importanti era Street Fighter, che arrivava a malapena a 6 milioni di copie, potete capire che già questo impatto è devastante, tant'è vero che proprio fu un fenomeno a livello culturale ed economico veramente distruttivo. Giusto per fare un accenno al discorso dello shareware, anche a livello distributivo, ai tempi i rivenditori dovevano pagare dei royalty veramente importanti quando si trovavano a dover vendere questo tipo di giochi. Gli software, per poter permettere una diffusione quanto più capillare possibile di questo gioco, disse: cari rivenditori, non preoccupatevi, voi vendete la parte shareware, se volete venderla in maniera libera, tutto quello che guadagnate è vostro, noi non vogliamo saperne niente, noi vogliamo solamente i soldi su quelli che sono diciamo le vendite ulteriori, quindi per avere il gioco completo. Potete capire che sia per i venditori sia per la casa Texana fu veramente una rivoluzione epocale. Purtroppo poi il modello distributivo non ha retto all'avvicinarsi degli anni, però rimane il fatto che questo è veramente un'impronta economica e storica che credo sia stata una parentesi unica nella storia dei videogiochi. Sì, sì, una forte, una roba di altri tempi purtroppo, no? Adesso ci sono questi early access, c'è Kickstarter, ci sono tutte queste cose che cercano di chiamare il giocatore a provare, anche a dare il proprio supporto anche per le meccaniche eccetera. Una volta c'era questa meccanica degli shareware che funzionavano, poi c'erano tantissimi titoli che hanno usufruito di questa meccanica, di questa possibilità, però è una cosa ormai passata, non ci sono più, vabbè, pazienza. Però ancora sta a dimostrare come Doom, non soltanto a livello di videogame, ma proprio come anche aspetto economico, sociale, in un certo qual senso, e tecnologico, perché comunque Doom alla fine è anche l'idea del 3D, della realtà virtuale, no? Un po' che ancora oggi, forse grazie all'Oculus Rift e queste cose qui, ha sempre appassionato, no? Anche Carmack stesso l'ha sempre detto, che è stato un suo pallino fin da subito, no? L'idea della virtual reality. Quindi Doom alla fine ha toccato tantissimi aspetti della, come dire, tantissimi aspetti oltre a quello videoludico. Chiaro, e qui è peraltro l'aggancio per l'ultimo tema che volevo trattare, appunto, per entrare un po' più nel focus della trama, delle caratteristiche del gioco, che è l'impatto sulla cultura popolare. Perché? Perché il 93 è comunque un anno particolare, è l'anno in cui si affaccia sul mercato anche un altro gioco estremamente violento, che è Mortal Kombat. È l'anno in cui in America ci si interroga ancora una volta, e ancora purtroppo senza condizioni di causa, sull'impatto che i videogiochi, comunque i media cosiddetti violenti, possono avere sulle menti giovanili. Ci si interroga ancora una volta se un videogioco come Doom potesse arrivare sul mercato, potesse essere venduto ai ragazzi, e in che modo fosse potesse essere possibile in qualche modo bloccarne l'accesso. Diciamo che prima accennavo al discorso di Doom Generation, ed è veramente così, nei campus universitari, nei gruppi di ragazzi, ovunque il gioco era diffuso in maniera capillare, tutti conoscevano, tutti volevano lottare contro questi demoni, era veramente qualcosa di importante. E se vogliamo sorridere, uno dei level designer appunto di Doom era mormone. Questo non per dire che, per mettere un po' in risalto il fatto di una differente fede religiosa, quanto perché i mormoni tendenzialmente sono molto resti a uscire dal seminato tutto quello che è fuori dal loro contesto religioso, mentre un mormone nel pieno delle sue convinzioni appunto si trovava in maniera ottimale all'interno di questo gioco, tanto è vero che appunto Romero si innamorò subito delle sue capacità di costruire questi livelli, delle sue idee, e quindi è ancora più facile magari comprendere quanto queste idee di violenza, di repressione di videogioco fossero quanto mai futili, e probabilmente senza quelle basi logiche che ci si aspetterebbe comunque da un parlamento americano, comunque da una società che si definisce così evoluta. Ecco, questo sicuramente è il quarto punto, forse il più importante, ma sicuramente che rende bene l'idea dell'impatto che questo gioco ha avuto sull'intera società, e ancora di più, ripeto, scusate se ripeto ancora questa definizione, che ha avuto sull'intera storia videoludica. Diciamo che fondamentalmente i quattro aspetti fondamentali, quindi le quattro colonne che in qualche modo definiscono il contesto di Doom, sono queste. A tutto questo vorrei aggiungere semplicemente magari quella che è l'esperienza personale, quindi in un gioco magari arrivato in Italia non con lo stesso impatto economico e culturale, ma sicuramente con una rilevanza non indifferente. Vorrei ricordare appunto che Doom seppe da una parte creare una vivida realtà per il giocatore, quindi un giocatore in prima persona che si trova in un contesto probabilmente a cui non era abituato. Wolf 3D per alcuni è stata una scoperta postuma, e in Italia, salvo errori, girava anche qui versione shareware, e la versione completa era, non mi ricordo fosse così diffusa sinceramente ai tempi, anche se magari non ho riferimenti così precisi. No, sicuramente non era assolutamente diffusa. Doom poi è stato quello che dal shareware è stato più esportato nella sua versione finale. Invece Wolf 3D è sempre stato un po' il capolavoro di nicchia. Infatti ho tantissimi amici che come me hanno prima provato Doom e poi Wolf 3D, quindi diciamo che Doom è sicuramente, come hai detto giustamente tu, avendo il successo sulla base americana, in Italia ha avuto un maggior riscontro rispetto a Wolf 3D. Esatto, e poi la seconda cosa che magari anche questa può far sorridere è che da una parte Doom contribuì anche, diciamo, in maniera negativa allo sviluppo dei videogiochi, in quanto partì tutta una serie di cloni allucinante che in qualche modo cercavano di salire sul carro dei vincitori del successo del gioco. Giusto per ricordarne uno, di una software house non esattamente di secondo livello come LucasArts, ricordiamo Dark Forces, che era ambientato nel mondo di Star Wars, clone più o meno sputerato di Doom, che in qualche modo cercava appunto di seguirne la scia. E seconda battuta, sempre per rimanere nell'ambito dei computer ma attaccando un altro riferimento, ai tempi erano anche gli anni di Windows 95, ecco, Doom aveva più copie di Windows 95, e questo nonostante Bill Gates avesse provato tutti i modi a portare il proprio sistema operativo in tutto il mondo. Considerate che appunto, diciamo, che Doom aveva raggiunto circa 15 milioni di copie, Windows 95 si ricordava bene o male se attestava sulle 8-9 milioni di copie, quindi dovete capire che la differenza è abbastanza importante. E addirittura Bill Gates ai tempi si chiese se valeva la pena acquistare ID Software. Purtroppo gli venne consigliato di non farlo, quindi potete capire che anche lì non sempre è stato scelte illuminate dal punto di vista economico. Eh sì, soprattutto per l'epoca, perché oggi nessuno probabilmente comprerebbe ID Software, o comunque sappiamo, no, il destino che ha avuto. Carmack anche ha fatto il recente Rage, che insomma lasciamo perdere, però all'epoca se avessero acquistato ID Software il buon Bill Gates, perché poi Doom è partito su DOS, anche quello è il fatto, no? Prima è partito su DOS, se non erro, e poi è arrivato su Windows 95, quindi diciamo che Doom a vendere più copie di un sistema operativo, voglio dire, quale migliore esempio per dimostrare l'importanza di un videogioco in tutti gli aspetti, no? Sì, poi un'altra cosa che ricordo, quindi adesso mi baso magari un po' più sulla memoria e poi appunto ti lascio lo spazio necessario, è che era un gioco praticamente pieno di bug, nel senso che tutto quello che è stato il fase di beta testing ossessivo e compulsivo da parte di Carmack diede i suoi frutti quando il gioco arrivò sul mercato, nel senso che non presentava grossi difetti, anche in quel codice di rete che poi si rivelò così importante per la parte multiplayer. Quindi sicuramente un lavoro tecnico alle spalle che è di caratura differente rispetto a quanto magari spesso siamo abituati oggi, togliendo... Esatto, sì, sì. Oggi siamo ormai abituati a prodotti che escono ancora in beta, bisogna aspettare la patch, tante volte ci sono le patch al day one, quindi uno compra il gioco e si deve scaricare quei 2-3 giga di patch, altrimenti non può giocare. All'epoca, perché forse anche il, come dire, la voglia di un personaggio particolare come Carmack, perché c'è Carmack, c'è Schaeffer, ci sono queste grandi icone, no? Oggi quali icone possiamo davvero ricordare? Forse ancora quelle stesse. Quali icone? Queste erano proprio gente che ci sapeva fare, quindi ci metteva amore, ci metteva passione, e forse adesso questa cosa si è un po' persa anche grazie a un'eccessiva complicazione tecnica, forse a discapito del gameplay, mentre Doom aveva un connubio di tecnica e di gameplay sicuramente diversa, no? Sempre contestualizzando il tutto in base all'epoca. Sì, sicuramente. Considera anche che nel momento in cui il gioco appunto fece quel passaggio DOS Windows 95, credo che dal punto di vista tecnico ci fu un'ulteriore necessità di comunque di riconfigurare tutto quello che era il gioco, di rimportarlo e reimpostarlo su un nuovo sistema operativo, ma non ricordo di nessuna critica al riguardo, nessuna diciamo ricerca della pace, anche perché ai tempi la massima distribuzione online erano le famose BBS, che in qualche modo rappresentavano una delle forme di sviluppo più in America che in Italia e di ottenimento di videogiochi in maniera telematica. Ecco, ai tempi non era possibile comunque impostare delle... Forse quello che succedeva, scusate troppo, quello che succedeva un po' maggiormente era le versioni più scarse, no? Perché Doom è stato rilasciato su Super Nintendo, è stato rilasciato su tantissime piattaforme, e mi ricordo che mentre quella PC ovviamente era quella più bella, c'erano quelle per altre console, come mi sembra anche il Sega CD, mi sembra, qui vado un po' a memoria, che avevano l'audio che non funzionava bene, avevano sicuramente per esempio la versione Super Nintendo aveva un ottimo audio ma la grafica non era migliore, quindi a differenza delle patch, proprio per limiti hardware oserei dire, c'erano diverse versioni che erano peggio rispetto al modello nativo su PC, questo sicuramente, però come dici tu non si poteva distribuire una patch così facilmente. Esatto. Poi scusatemi se torno un attimo indietro, ma in maniera quantomeno stupida mi sono dimenticato di dire l'origine del nome Doom, che magari è note di colore più interessanti. Ecco, diciamo che l'origine del nome deriva da un film con Tom Cruise, Il colore dei soldi, dove il nostro protagonista si trova a un certo punto a dover giocare una partita di biliardo. Arriva con la sua valigetta con dentro una stecca appunto di biliardo, personalizzata, e l'attore di fronte a Tom Cruise chiede: ma cosa c'è lì dentro? Lui risponde semplicemente: Doom, destino. Questo un po' a raffigurare la lotta di ID Software, che a quei tempi non era quella grande software house che diventò poi, contro magari produttori ben più titolati come la stessa Apogee, che con questo gioco venne abbandonato in quanto gli sviluppatori non ritenevano che potesse fornire l'adeguato supporto distributivo che si aspettavano per un titolo di questa portata. È una nota di colore, però mi sembra giusto anche per sottolineare un po' quello che era il carattere dei due ragazzi, che non si fermavano davanti alle difficoltà, ma anzi affrontavano in maniera spavalda. Affrontavano il proprio destino, perché proprio è un gioco che ha distrutto, cioè ha poi raccolto il proprio destino, il destino di tantissimi aspetti tecnologici, sociali, come abbiamo detto. Quindi quale miglior titolo per questo gioco, perché proprio il destino anche della casa, fare spaccare tutto sostanzialmente, sia a livello di vendite che distribuzione. Quindi è un dato di colore, come dici tu, ma allo stesso tempo molto importante per la definizione del titolo. Sì, direi che comunque togliendo questo spazio al colore, se vogliamo, abbiamo delineato un po' quali sono gli aspetti più importanti. Poi giustamente, magari lo accenniamo anche più avanti, arrivarono anche numerosi seguiti che comunque in qualche modo contribuirono a definire un po' quello che è il mito di Doom. Ma diciamo che la genesi, le parti più importanti, tutto quello che in qualche modo ha reso importante questo prodotto è stato delineato in questi brevi passaggi. Ora magari, prima di passare a quella che è se vogliamo la parte che probabilmente aspetterete di più, quindi entriamo un po' nella trama, nelle sensazioni, in quella che è un po' l'eredità di questo gioco, ci interrompiamo un attimo e mettiamo su un brano tratto sempre dalla colonna sonora di Doom. Non vi dico il titolo, perché vogliamo sia una sorpresa, poi vedremo un po' se questa nostra scelta incontrerà il vostro applauso, il vostro benestare, e vi lasciamo appunto alle note di Doom. Could you describe a typical Slayer fan? A guy just would literally out of nowhere just yell, Slayer! You know, just... Ah! Perfetto, e quindi sulle note di Doom ritorniamo in trasmissione per raccontare un po' quello che vi abbiamo promesso, quindi entrare un po' più nel dettaglio in quella che è la vera e propria epopea storica di Doom. E per fare questo posso solamente lasciare la parola al mio caro amico Mashiro, che sicuramente potrà raccontarla meglio di me un po' la trama, un po' le sensazioni, un po' quello che è la sua esperienza relativa a Doom. Sì, sicuramente, ecco, la trama, molti, almeno tantissimi amici, non hanno mai pensato, no, che dietro Doom ci fosse poi una storia, una trama. Comunque si viene a delineare un po' durante il gameplay, però in molti libri anche di Doom si fa riferimento, e si farà poi sempre riferimento, al tizio di Doom, ovvero sia, no, il Doom Guy, che è il personaggio che noi stiamo, che rappresentiamo nel gioco, che poi viene definito come Flynn Taggart. Quindi se leggete qualche libro dedicato a Doom si fa riferimento a questo personaggio, che poi è un marine, ovviamente il tutto è ambientato nello spazio, nel futuro, che è stato poi deportato su Marte e mandato dalla sua compagnia, che doveva essere tipo la Union Aerospace Corporation, la UAC, chiamiamola così. È stato mandato per indagare sul solito esperimento, se devi dire andato male, di teletrasporto fra due lune, la luna Phobos e la luna Deimos. E praticamente cosa può succedere da un esperimento che va male? Può succedere qualcosa di positivo? No, assolutamente. Orde di mostri terrificanti e di forze infernali escono da questo portale ipotetico che si è venuto a creare, e poi hanno invaso praticamente il suolo di Marte. Quindi diciamo che c'è un po' un mix di qualsiasi cosa, no, in questo titolo. Come giustamente hai detto tu, si voleva fare in qualche modo un accenno, comunque si voleva fare un gioco su Alien, e l'ambientazione ricorda un po' la stazione spaziale che c'era, per esempio la nave spaziale che c'era in Alien, eccetera. Quindi si doveva combattere queste orde di mostri, che però dobbiamo ricordare che non erano solamente alieni, ma erano proprio creature dell'inferno. Quindi da questo errore, da questi problemi di questo teletrasporto, siamo noi il Doom Guy, quindi il tizio di Doom, il tizio del destino, a dover pulire qualsiasi cosa. Come hai detto anche tu precedentemente, il gioco era suddiviso ad episodi, quindi il primo episodio, che era poi quello disponibile in shareware, si svolgeva all'interno degli edifici, per poi eseguire un'escalation fino al cuore dell'inferno. Quindi non era semplicemente una passeggiatina su Marte, ma ecco, si andava direttamente negli inferi. E la cosa più interessante, che personalmente adoro di Doom, è che forse oggi non si capisce bene, o comunque si è andata a perdere, sono due. Oltre al level design, che ricordo era molto vasto, quindi si poteva percorrere questi labirinti cercando segreti, raccogliendo armi, armature, power up e qualsiasi altro tipo di oggetto, mi piaceva molto l'arsenale, perché c'era praticamente di tutto. Uno non era abituato ad avere tantissime armi, no? In un videogame di solito si aveva quell'arma 1, l'arma 2, oppure l'arma che sparava in un certo tipo. Per esempio in Contra si aveva la linea dritta, oppure si aveva lo spread che sparava in tutte le direzioni. Perché ricordiamoci anche che secondo me tra Contra e Doom c'è, no, un po' di affinità. Comunque c'era proprio un arsenale fatto di lanciarazzi, di Gatling Gun. Il feeling delle armi, no, oltre a quello che è il livello del 3D, era proprio il feeling delle armi, perché i nemici non è che morivano e basta, ma principalmente i marine che erano posseduti, no, dal male, morivano, ma in modo molto gore, in modo molto ispirato. Quindi una volta uccisi soffrivano, no? Era bello vedere proprio questi personaggi che una volta annientati, una volta distrutti, soffrivano cadendo a terra, ed era una parte soddisfacente, no, del gameplay, il fatto di vedere, no, l'effetto dei nostri colpi sul nemico. E i nemici è un altro aspetto molto importante di questi tipi di FPS, quindi in Doom in particolar modo, perché c'è proprio l'unione, no, del fantascientifico con l'horror, quindi c'è questa ispirazione tipicamente degli anni 80-90 in cui bisognava unire, no, la parte horror cercando di immergere il giocatore in un ambiente davvero oscuro. In fondo stiamo parlando dello spazio, stiamo parlando dell'inferno, stiamo parlando di demoni, e quindi c'è in Doom questa sensazione di oppressione, questa sensazione di non sapere mai cosa trovarsi davanti quando poi si viene a scoprire il cervellotto con le gambine, c'è il demone, insomma ci sono tantissimi nemici che rendono l'esplorazione o comunque il vivere di Doom particolarmente opprimente e particolarmente oscuro. Il tutto poi è ambientato in questi livelli che almeno per me ricordano un po' la claustrofobia, no? Erano un po' molto labirintici, insomma c'era questa sensazione di girare l'angolo e spesso ti beccavi il marine impossessato lì di fronte e tu dovevi ucciderlo magari anche con il tirapugni, quindi c'era qualcosa di realmente profondo sotto questo punto di vista, sotto insomma l'aspetto del level design. Oggi non si vede molto spesso questa cosa perché c'è una linea retta, secondo me è importante, no? Fare il paragone anche fra il capostipite del genere, quindi dal papà degli FPS, con la visione odierna, no? del first person shooter. Mentre in Doom si partiva subito con la possibilità di scoprire un determinato numero di segreti, in moltissimi FPS odierni questa cosa è andata un po' a scemare. Questo è un po' un peccato, non so cosa ne pensi tu, se trovi la stessa cosa abbastanza emblematica, diciamo, no? Che sicuramente il gameplay di Doom era più immediato da questo punto di vista, nel senso che ti permetteva comunque di padroneggiarlo al meglio fin dalle prime battute. Detto questo, più immediato, esatto, ma non per questo meno strutturato e meno profondo, anzi cioè si aveva proprio la sensazione, no, di essere lì, di essere questo personaggio, questo marine, il solito marine destinato ad andare su questo pianeta con questo incidente e in un livello, perché poi si partiva, non è che adesso siamo abituati, c'è la cutscene, quindi ti spiega, c'è il comandante, ti abbiamo allenato, adesso andrai in zona di battaglia, bla bla bla, lì si partiva, si pigiava il primo episodio che dovrebbe essere Sneak Deep in the Dead, dovrebbe essere più o meno quello il nome, perché poi c'erano i capitoli, no? Con il nome, molto, molto film questa cosa. Comunque si partiva subito in mezzo all'azione, quindi non c'erano cutscene, non c'erano spiegazioni, non c'era nessuno che ti guidava, c'eravamo solo noi, la nostra pistola e il portrait del nostro Mino. Questa è una cosa molto importante perché i danni, oltre ad avere la percentuale, erano rappresentati anche sotto il punto di vista dei danni fatti sul portrait del nostro nemico. Però è proprio il feeling generale, no? E il gameplay all'inizio si adesso siamo abituati a controllare col mouse, quindi proprio dal punto di vista dei controlli era un po' complicato, no? Girare i vari livelli eccetera eccetera, perché i controlli erano limitati. Però la sensazione del 3D, la sensazione di essere in un livello molto grande con tantissimi spunti a livello di proprio level design, scusate il gioco di parole, comunque era percepibile fin dall'inizio, come giustamente hai detto tu, si controlla subito e si ha subito la sensazione di essere dentro il gioco, no? Senza perdere in profondità. Era un po' cioè riusciva a creare quella sensazione di non saper mai cosa trovare dietro l'angolo, quindi tu giravi un corridoio e ti trovavi il demone che è bruttissimo, che ti sparava le palle di fuoco. Quindi c'era questa varietà che poi si rispecchia anche nel multiplayer, che poi ha reso anche il gioco davvero molto importante. Per quanto riguarda poi le armi, si partiva con i tirapugni, c'era la classica pistola che tutti conosciamo, poi c'era, perché ricordiamo anche che sotto il profilo grafico era una bomba all'epoca, ma anche sotto il profilo sonoro, quando tu colpisci un nemico, quando lo uccidi, moriva facendo oh, oh, cioè si sentiva proprio, scusa l'imitazione della morte del marine. Però si pizzi quando finì di mangiare, però povero Simone, mamma mia, insomma se finisce di mangiare e fa questi versi non vorrei cosa poi fatto, vabbè, di apprezzamento. Comunque fanno questi rumori anche negli FPS successivi, il sonoro delle armi, perché poi non c'era questa musica di sottofondo, ok, e si sentivano questi marine, questi morivano, insomma il sonoro riusciva anche lui a contribuire, no, a questa atmosfera, perché poi c'erano i bazooka, c'era il fucile a pompa, bellissimo, indimenticabile, il Gatling, c'erano il fucile a plasma, insomma c'erano un quantitativo di armi incredibili, poi c'erano power up, c'erano degli oggetti particolari, c'era veramente qualcosa di diverso, qualcosa di più vario, e poi tutto questo si rispecchiava nel multiplayer, che è un altro aspetto molto importante secondo me di Doom, perché dato che Doom ha fatto praticamente breccia in qualsiasi punto di gameplay e di esplorazione, di qualsiasi altra cosa, ha sfondato anche nel multiplayer, anzi Doom forse è stato il primo gioco a creare qualcosa di più complesso, no? Del solito local multiplayer, perché si usava, ok, io ti do il joypad o comunque io ti do questo, tu giochi insieme a me, però siamo vicini, non c'era questo concetto di giocare tutti online, invece grazie a una tecnologia particolare era possibile creare delle partite in Ethernet, che questa tecnologia chiamata Ethernet IPX, ed era possibile anche giocare in più giocatori in una modalità deathmatch, che poi ha definito tantissimi altri titoli, quindi c'era anche questa questa modalità molto molto interessante, davvero un po' anche questo, no, il concetto di FPS multiplayer, e comunque fa breccia nel cuore di Doom, perché è Doom che ha poi generato il multiplayer che noi vediamo oggi, quindi questo sviluppo frenetico. Insomma, il mio primo ricordo giocando Doom, perché poi adesso ho cercato di riprovarlo, perché di volta in volta lo riprovo ogni tanto con qualche mod, per esempio giocando a Brutal Doom, rimane sempre il fascino, seppur la grafica sia quella che è, anche se molto, insomma, ci sono dei mods che la migliorano molto, però il feeling proprio dei nostri colpi sui nemici è la cosa che personalmente apprezzo di più in questo titolo, perché comunque si affrontano tantissimi tipi di mostri, tantissimi tipi di nemici, ma è proprio l'arma, no, che rende un FPS importante. Sì, se posso su queste cose vorrei introdurmi con un paio di elementi che magari possono essere interessanti, partendo proprio dalle armi che a cui stai accennando. Ecco, una cosa che ho notato in Doom, che probabilmente è uno degli aspetti anche storici più importanti, è il fatto che molte tipologie di armi introdotte in Doom divennero poi dei classici anche in altri FPS, quindi una sorta di clone implicito di quella che è le caratteristiche di altri giochi del genere. Uno su tutti, il bazooka enorme, me lo ricordo anche in Duke Nukem 3D, un'arma simile. E comunque appunto c'era un ritorno dal punto di vista stilistico di quello che era un po' i concetti grafici e di gameplay di questo tipo di armi. Un altro accenno invece è quello riguardo il sonoro, nel senso gli effetti sonori che un po' accennavi, anche questi, il gorgoglio di Simone appunto quando viene ucciso qualcuno, ok. La cosa interessante è che la maggior parte delle librerie di suoni utilizzate all'interno del gioco erano open source, quindi potete immaginare di trovare gli stessi effetti anche in film, telefilm o in altre realtà. Ecco, penso sì. Interessante che uno sviluppo di un gioco, quindi una software house che in qualche modo non aveva ancora i fondi necessari, vuole puntare in alto, l'utilizzo mirabile, attento e calcolato di questo tipo di questi effetti gratuiti, quindi niente di così ricercato, era in qualche modo secondo me un ulteriore indice dell'abilità degli sviluppatori comunque di introdurre tutti gli elementi giusti al momento giusto nel posto giusto, quindi sicuramente sì. Un discorso interessante. E poi l'altro accenno che non mi sembra tu abbia detto, però se sì perdonami, è il discorso del boss finale, nel senso che il livello, assolutamente sì, non avevo detto che il livello conclusivo appunto questo spesso sia ci sarà un contest finale, quanti appunto dico a fine puntata che potrebbe essere interessante. Dicevo, nel livello finale era possibile trovare quello che era il boss, diciamo un livello più facile in cui c'era questa sorta di mega nemico, e anche qui riprendiamo un po' quello che si era accennato in Love 3D, dove uno dei famosi nemici, e qua c'è un piccolo spoiler, ad esempio era lo stesso Hitler all'interno di un robot, quindi potete capire, non so se te lo ricordi. Era sì, bellissimo vederlo, cioè Hitler robot è rimasto, ricordo bene, parlava anche, c'era qualcosa tipo Achtung, non mi ricordo, sì, non mi ricordo cosa diceva. E quindi potete capire che la struttura a punteggio, un po' se vogliamo anche arcade del gioco, si rifletteva in queste dinamiche che comunque ben si inserivano all'interno di tutto il contesto. Un altro accenno, e qui poi ti lascio la parola, è che in fase di design un po' del gioco c'era stato anche un tentativo di creare quella che avrebbe potuto essere una trama più approfondita. Tanto è vero che il Tomoe, che poi viene in qualche modo defenestrato da ID Software, ha creato quella che è cosiddetta Bibbia di Doom, dove in qualche modo erano delineati tutti i vari aspetti della trama, psicologici, di merito, cioè, diciamo, un vero e proprio documento che potesse servire da base per la strutturazione dell'intero gioco. Ecco, Carmack, con il suo consueto, diciamo, tatto, ritenne che queste cose erano praticamente inutili, quindi le cassò senza colpo al ferire. Beh, diciamo che un'altra cosa che ricordo benissimo è che all'interno del loro gruppo stesso comunque si sono poi un po' beccati, no? Per esempio ricordo che Romero disse che i livelli creati da Hal non erano proprio, erano un po' troppo simili a Wolfenstein, quindi c'era anche questa loro all'interno, no? Un po' di battaglia su un prodotto che poi in realtà è davvero molto molto bello sotto tutti i punti di vista, quindi diciamo che un po' si beccavano anche loro stessi, però insomma, come hai detto giustamente tu, c'era questo aspetto della Bibbia di Doom e Carmack diciamo che non lo considerava moltissimo. Si considera che una frase che gli viene riportata dice che la trama in un videogioco è come la trama in un film porno, ti aspetti che ci sia ma in fondo non ti serve. Ma questo è un altro argomento, secondo me, molto spinoso, no? Soprattutto oggigiorno, dove vediamo un sacco di cioè, ci sono, naturalmente, ci si sbilancia. Ci sono i giochi tutta trama, mi viene in mente The Rester, questi giochini qui. Perché io sono un po' più dalla parte di Carmack, non nascondo che la trama in un videogame, soprattutto in un FPS, sia un po' un aspetto secondario, anche se poi la cosa sarebbe, per creare un vero e proprio capolavoro, cercare almeno oggigiorno di unire, no, le due cose. Quindi ci sono tantissimi titoli che hanno sia una trama ben delineata e sia un gameplay molto forte, però se devo essere sincero, se voglio sbilanciarmi un po', preferisco la via di Carmack. Però forse questo è un altro discorso che magari potremmo prendere spunto per un'altra puntata, non lo so. Sì, diciamo che è sicuramente interessante. L'anima, se vogliamo, fredda da sviluppatore di Carmack si riflette anche in numerosi suoi lavori, tant'è vero che i successivi capitoli di Doom, tolto Doom 2 probabilmente, donavano molto dal punto di vista tecnico, dove appunto Carmack diceva ancora la sua e manteneva un certo controllo, ma perdevano un po' in quella visionarietà che il buon Romero era stato in grado di donare. Però aspetta, si interrompo, però Romero ha donato la sua visionità, diciamo così, a Daikatana, ecco, mentre uno ha dato, cioè successivamente Romero, ecco, ha partorito Daikatana, che doveva essere quel gioco un po' più story driven eccetera, e Daikatana è, diciamo così, è una schifezza, cioè diciamoci proprio in parole povere. Quindi bisogna capire un po', no, come, quale dei due aspetti, che poi alla fine è proprio la loro unione, no, ad aver reso grande questo titolo. Però sì, diciamo anche che appunto il successo commerciale da Katana è inesistente a fronte di spese enormi, e da lì poi il buon Romero non sa più riprendersi. Invece, come dicevi giustamente anche tu, Carmack è sempre sulla barca dell'onda dal punto di vista tecnico e anche, se vogliamo, economico, quindi potete capire che probabilmente il pragmatismo in questo senso. Beh, quando uno fa un videogame, sicuramente se rimane più attaccato alla figura tecnica, secondo me ha più possibilità di rimanere attaccato all'onda, no? Anche se poi Carmack ha fatto Rage, che Rage non è proprio eccezionale anche dal punto di vista tecnico, seppur abbastanza visionario come ambientazione. Però è un po' un argomento spinoso, perché ci sono tantissimi personaggi che fondano la loro forza anche sulla trama, mentre anche Sheffer, per esempio, insomma, fanno fondamento su queste cose qui. Però bisogna avere un livello di genialità di Sheffer, ok? Non penso che ci vuole qualcosa di realmente forte, no, per spiccare con la trama piuttosto che il gameplay. E questo, secondo me, è più facile fare un gioco con un gameplay o con un aspetto tecnico mirato, perché alla fine si parla di numeri, piuttosto che fare un gioco con una trama davvero forte. Perché bisogna capire che molti potrebbero non apprezzare la trama che uno si fa, però finché si ha qualcosa di originale da dire, forse, insomma, anche il fascino di Romero al suo perché poi, come hai detto tu, non avendo avuto il successo da Daikatana, che è costato tantissimo, non ha potuto più riprendersi. Devo dire che però è un peccato, Ma sì, abbiamo un po' divagato, sì, però, però. Così, senso che probabilmente così emerge ancora di più quello che è l'impatto globale di Doom all'interno del mondo videoludico. Mi sembra che stia accennando un po' poi al discorso anche del multiplayer, il fatto che in qualche modo Doom ha saputo introdurre un multiplayer competitivo, che sicuramente non ha mai avuto un riscontro simile in altre realtà precedenti. Sì, perché Doom ha poi generato l'effetto del frag, no? Cioè, se uno vuole, sono due i giochi che uno, quando si riferisce usando il termine frag, escono fuori maggiormente, cioè appunto Doom e poi l'altro è Quake. E guarda caso sono due titoli che riescono a incidere nella storia con anche delle particolari armi, come avevi detto tu giustamente. Ricordiamoci anche Quake, venuto dopo ovviamente, e poi famosissimo per la Railgun, che è rimasta poi un'icona dell'immaginario multiplayer. Però proprio la filosofia del frag, del deathmatch, della varietà di gameplay giocando con altri giocatori rispetto all'intelligenza artificiale è nata alla fine con Doom, perché con Doom c'erano questi livelli molto, molto belli anche loro, perché poi venivano create delle mappe, e ancora adesso ci sono delle mappe create dalla community, ci sono dei software per giocare online, e è proprio il connubio di feeling con le armi, esplorazione dei livelli, quindi conoscere i vari aspetti, da dove può uscire fuori un nemico, da dove può passare, a rendere il multiplayer di Doom ancora oggi molto, secondo me, attuale. È molto base, ok? Se oggi pensiamo a tantissimi titoli come Battlefield 4, insomma, la serie Call of Duty, che secondo me comunque prende molto spunto da questi deathmatch, anche se meno frenetico, però la filosofia c'è in qualche modo, hanno uno stile completamente diverso, però Doom è quello che ha creato l'idea del multiplayer arcade, del movimento, delle tattiche per combattere gli altri giocatori, quindi come sparare, la mira e poi soprattutto la sensazione gratificante del punteggio, perché quello che ci tiene realmente attaccati a una partita multiplayer è il proprio punteggio, è il proprio score, quindi si poteva vedere direttamente in game il proprio punteggio, e questa nei confronti di altri giocatori, e questa è una cosa che non è mai avvenuta. Cioè, in Street Fighter per esempio, a parte il fatto che il multiplayer c'era anche con altri titoli, sempre comunque a livello locale, quindi si andava su Street Fighter, però una volta che finiva il match il tuo score rimaneva in quel match lì contro un altro giocatore. Invece in Doom c'è questa partita multiplayer che si sviluppa per quella mezz'ora o quel 20 minuti, dipende un attimino, in cui c'è tutta questa frenesia, no? C'è la frenesia di prendere l'arma più forte, di trovare l'arma, di combattere gli altri giocatori, e in queste arene particolarmente ispirate, con un level design particolarmente bello. Quindi diciamo che anche sotto questo punto di vista Doom ha creato insomma, l'idea del multiplayer, dell'FPS multiplayer. E io personalmente non ho giocato moltissimo a Doom in multiplayer, ho giocato un po', devo dire, quando ancora ero ai periodi scolastici, devo dire che mi divertivo molto, perché poi sono uscite delle mod, come ho detto prima, sono uscite delle mappe completamente create dalla community, perché anche questo è un altro aspetto importante di Doom, perché Doom non è che è rimasto lì chiuso, ha creato una community. Quindi intorno a Doom, intorno a questi grandi capolavori, non c'è soltanto chi ha fatto il gioco e il giocatore che in quel momento lo sta giocando Doom, ma c'è proprio un'intera community, e questo è dato dal fatto che Doom alla fin fine è un gioco completamente modificabile, è un gioco che è stato modificato dai giocatori, da questa community, ed è ancora oggi in auge questa community, tanto è vero che scoccio magari di nominare sempre la stessa mod, però Brutal Doom ancora oggi, che è andata a modificare i controlli, quindi è possibile usare il mouse come vogliamo eccetera, dimostra come il supporto dei giocatori sia molto importante. Quindi Doom ha dato molto ai giocatori, ma allo stesso tempo i giocatori, a livello di multiplayer, a livello di mods eccetera, hanno dato tantissimo a Doom, e questa è un'altra cosa molto interessante, perché pochissimi giochi riescono ad avere una community così importante e duratura negli anni. Mi viene in mente soltanto Quake, perché Quake più o meno condivide lo stesso gameplay, e infatti Quake è molto simile secondo me a Doom, anche se il multiplayer ovviamente è molto diverso e più dinamico, e lì è proprio si è creata la scena competitiva professionale, oserei dire, perché ci sono tantissimi esponenti di questa cosa che appunto è l'FPS competitivo a livello professionale. Però quanti giochi possono avere una community di questo tipo da così tanto tempo? Cioè, noi pensiamo che Doom è uscito nel 93 e ancora oggi c'è una forte community che gioca online a Doom. È incredibile questa cosa, come c'è ci sono molti giocatori che giocano a Street Fighter 2, quindi non stiamo parlando soltanto di un capolavoro estemporaneo per delle scelte di gameplay e del level design ispirate, ma stiamo parlando di un capitolo duraturo che ancora oggi conta tantissimi appassionati. Questa è la forza di Doom, sicuramente, no? Poi peraltro, proprio sul discorso comunità, è interessante notare un attimo anche il, se vogliamo, l'aspetto più tecnico della questione, ovvero che la modalità multiplayer e tempi permette di giocare con 4 giocatori completamente. Era possibile farlo con 2 modalità diverse, o diciamo la solita rete locale, quindi Ethernet, oppure tramite, esatto, collegamento telefonico via modem o con il null modem che passa attraverso la porta seriale. Però in questo caso potevi giocare al massimo 2 giocatori. Ai tempi, visto il successo di questa modalità, nacque addirittura un servizio dedicato che il cui nome era Duango. Il Duango, soprattutto, sì, attivo in America, se non so se fosse arrivato anche in Europa sinceramente, il cui acronimo significa Dial Up Wide Area Network Game Operation, e serviva appunto per, diciamo, una sorta di game spy ante litteram che consentiva in qualche modo di facilitare il collegamento fra i giocatori. Pensate che questo servizio costava ai tempi $8.95 al mese, stiamo parlando del gennaio del 95, e che in pochi mesi c'erano già circa 10.000 persone già collegate a tutto il mondo, quindi sì, effettivamente è uscito anche dai confini americani. Una cosa enorme, sì. E nel giro di neanche un anno si passò da un solo server che non riusciva più a supportare il traffico a addirittura 22 server. Quindi dovete immaginare che l'impatto, appunto, a livello di comunità, che un po' accennavi anche tu, è stato veramente importante. Quindi una vera e propria realtà. Sì, perché Doom non ha creato solo, non è proprio solo il gioco, no? Ma c'è dietro Doom c'è tutta un'infrastruttura sia tecnica, perché poi la concezione anche dei server, no? Oggi se giochiamo a, mi viene in mente, che so, Team Fortress 2, ci sono i server che noi possiamo scegliere di Team Fortress 2, ma come hai detto giustamente tu, Doom non è riuscito più a contenere tutti i giocatori in un server e si è vista la necessità di comprarne altri, quindi di gestire altri, e proprio si è creata anche l'infrastruttura che oggi conosciamo nei giochi multiplayer. Quindi se oggi non ci fosse stato Doom, tanto per dirne una, molti giochi non avrebbero, magari sarebbe uscito qualcos'altro, però proprio la teoria tecnica dei server, dei multiplayer, del servizio online per i videogiochi, forse non sarebbe esistita, perché come hai detto tu l'afflusso di pubblico della comunità era talmente grande che è diventato poi qualcosa di più di un semplice videogioco, no? È proprio un aspetto, come diciamo poi dall'inizio, a tutto tondo, no? Della società, del mondo videoludico, eccetera. Sì, poi man mano che parliamo poi mi vengono in mente gli spunti, appunto perché il tema è particolarmente importante e interessante. Credo che uno dei motivi per cui Doom ancora oggi sia così sulla breccia dell'onda sia dovuto anche alla lungimiranza di Carmack, nel senso che ID Software negli anni ha sempre perseguito una politica per cui dopo un tot di tempo rilasciava i propri motori di gioco, quindi il listato del gioco in maniera open source, permettendo così la creazione dei mod che dicevi anche tu, di versioni magari anche su macchine che non supportate nativamente, si parla ad esempio anche di una versione Amiga, di una versione Wii, e in qualche modo se ne permetteva il riutilizzo, lo studio e la diffusione in maniera capillare, senza più quei vincoli che magari i diritti d'autore magari mettono come un cappio anche in situazioni dove non è necessario, ecco. Esatto, sì, perché infatti ci sono altri titoli, no? Adesso si sa che c'è l'Unreal Engine, che no, l'Unreal Engine è sempre utilizzato, però sono comunque degli engine a pagamento, no? Adesso non so, mi sembra che era a pagamento, no? Allora l'engine di Doom, credo fosse comunque a pagamento. Sì. Quindi comunque c'è questa grande pensata sempre di Carmack, che dal punto di vista tecnico si vede che ci sapeva fare, ha detto semplicemente: ok, potete prendere il motore del nostro gioco. E guarda caso chi l'ha fatto? L'ha fatto Quake, l'ha fatto l'Unreal Engine, che sono poi dei motori che hanno prosperato, anche perché col motore di Doom ci hanno fatto Heretic, se non erro Hexen, insomma ci sono usciti tantissimi giochi che hanno usufruito del Doom, del Doom Engine, ed è stata un'altra grandissima genialata, no? Proprio sotto questo aspetto puramente tecnico. E poi sono nate, grazie anche alle community, degli aspetti molto divertenti, quindi degli appassionati. Per esempio, ultimamente sono usciti diversi video fatti con il motore di Doom, che ci fanno vedere come il gioco, come Doom sarebbe oggi se fosse uscito in questi anni. E vi consiglio di andare a vedere qualche video su internet, su YouTube, perché sono molto divertenti. Prendono un po' in giro i giochi teleguidati di oggi, quindi ci sono 3 ore di dialoghi, si uccide un Marine e poi altre 3 ore di dialoghi. Quindi questo è tutto grazie alla community che si è venuta a creare dietro, ecco. Sì, sicuramente l'impatto è devastante. Peraltro, perdonami, appunto, questo, ripeto, potrei dire che... Perché poi escono, continuano a uscire, no, questi riferimenti, perché uno più ne parla e più escono fuori, sì, cose, sì, no? I riferimenti sono uno con l'altro. Ad esempio, adesso mi viene in mente qualcosa dal punto di vista tecnologico. Ricordo il fatto che per la prima volta Doom permetteva un gioco sviluppato su più livelli, mentre ad esempio Warcraft 3D era un pavimento unico, chiaramente in piano. Un'altra cosa interessante magari era il discorso che c'era differente, la luminosità che era differente. Mi ricordo le zone buie che a un certo punto si illuminavano con i mostri. Queste, certo, erano cose che creavano una tensione, un'immedesimazione sicuramente maggiore. Senza contare anche un'altra cosa molto importante, che è l'iterazione con il livello. Quindi noi all'interno del livello di Doom potevamo attivare degli ascensori, potevamo agire sugli interruttori, aprire delle porte, quindi c'era anche questo aspetto tecnico, no? Quindi l'iterazione con il livello, che andava oltre al semplice pigiare il tasto azione per aprire una porta, ma c'erano dei tasti che dovevano essere attivati, e anche questo è poi la base di molto altro, come per esempio succedeva in Duke Nukem 3D, dove bisognava raccogliere la tesserina per aprire le varie porte per finire i livelli. È tutto partito poi anche dall'iterazione che era stata introdotta in Doom, e questa iterazione poi si rispecchia anche nel multiplayer, perché comunque nel multiplayer ci sono dei livelli in cui bisognava usufruire degli ascensori, insomma. Comunque anche l'aspetto tecnico da questo punto di vista era assolutamente all'avanguardia, perché anzi oggi, volendo, perché mi scoccia fare sempre il paragone col passato, cioè tra il passato e il presente, però alla fin fine stiamo parlando di Doom, abbiamo detto che Doom ancora oggi ha una comunità molto forte, quindi è opportuno fare anche un paragone con la nuova realtà, no? E oggi l'iterazione del personaggio con i livelli si è andata un po' a perdere, proprio perché è calato il level design, ok? Quindi si fa molto più fede sui mitra, quindi su questi tipi di armi, oppure sul fatto di ripararsi dietro a un muro, piuttosto che sull'esplorazione. Però ecco, è proprio la cosa più importante è questa dell'iterazione con il livello, che era ancora una volta molto originale per i tempi. Già, considerando magari alcuni contesti attuali ti viene un po' lacrimina, però... Beh, ci sono molti giochi che prendono comunque lo spirito di Doom. Adesso non sono mai un fan della nostalgia per forza della lacrimuccia, ok? Però devo dire che effettivamente, secondo me, per quanto riguarda il panorama FPS rispetto a Doom, per molti aspetti si è andati molto indietro. Cioè, per dirti, magari risparmiare 2 soldi sul doppiatore, che sinceramente, insomma, capisco che uno deve avere doppiato qualsiasi linea di testo, ormai uno è così, però risparmiare 2 lire su queste cose qui e magari investire maggiormente sul level design sarebbe sicuramente meglio, no? Cioè, poi senza lasciarlo perdere la nostalgia eccetera, perché tanto prima o poi ritornano questi grandi classici, insomma, Kickstarter, questi fenomeni qui, Early Access, il recente Broken Age di Schaeffer, o comunque tanti altri tipi di giochi che stanno uscendo dimostrano che comunque il passato prima o poi ritorna, è un destino, diciamo. Vabbè, sì, poi vabbè, consideriamo, lasciamo che perdere. Gli impatti non furono solamente positivi. Adesso non so se lo ricordi, ma Doom ha originato anche un film che cioè dobbiamo, sì, per forza di cose dobbiamo toccare anche questo aspetto. Il film di Doom È una zozzeria, possiamo dirlo. Cioè, chi c'era? C'era The Rock a farlo, non mi ricordo più. Aspetta un attimo, che è meglio dare un'occhiata, perché io purtroppo sono anche un fan dell'horror, quindi quando ero ragazzino, quando giocavo questi tipi di giochi, vedevo mostriciattoli, poi è una passione ovviamente nata dal cinema, insomma mi piacevano molto questi aspetti, però nel Doom film è meglio lasciarlo perdere, perché diciamo sì, che insomma, è del 2005, c'era The Rock, è più contestuale al terzo episodio della serie, però diciamo che veramente era qualcosa di inguardabile e penso uno dei peggiori esempi, nel senso del genere, addirittura ho preferito ai tempi sicuramente Wing Commander come film, quindi il che è tutto dire. È tutto dire, perché Wing Commander è un altro film abbastanza, però forse riprendeva un po' lo spirito del videogame molto stretto, insomma è difficile, no, fare per esempio Resident Evil, quello è un altro esempio, no, di film, perché fare un film su un videogame non è semplice, non è molto, perché il videogame è tutto un altro aspetto, anche il film Silent Hill, non so se l'hai visto, quello è già un po' meglio, un pochettino meglio rispetto, e il problema è che non riescono a catturare in pieno la filosofia del gioco. Doom, già il fatto che in Doom c'era il mitra, no, lasciare perdere, infatti è stato attaccato incredibilmente dalla comunità, che si sono rivoltati contro questa cosa e si sono anche rivoltati, cioè si sono rivoltati anche per Doom 3, figuriamoci se non si rivoltavano, se la community non si incavolava per il film di Doom, perché Doom 3, magari questo ne parleremo dopo, è un buon gioco, però è molto diverso, no, dal Doom originale, però sono cose comunque diverse che hanno fatto incavolare la community per molte cose, quindi lasciamo, non guardate il film, lasciate perdere. Sì, sicuramente, magari se invece volete divertirvi su qualcosa di più particolare, ci sono poi quello che accennavo prima nel fuori onda, che tutto quello che è collaterale, sono alcuni giochi in scatola interessanti. Ecco, questo è interessante. Per esempio, il primo che è intitolato Knee Deep in the Dead, che riprende un po' quello che è appunto il primo livello del gioco, quindi tutto basato su miniature autorizzate più o meno ufficialmente anche di software, e che in qualche modo cercano di replicare l'esperienza di gioco videoludica su cartone, passatemi il termine. E quindi diciamo che in qualche modo Doom ha trasceso quella che è sta dimensione, semplice dimensione videoludica, per poi andare a infilarsi anche in altri contesti. Esatto, sì. Ma poi che però i tabletop, diciamo che l'immaginario dei giochi da tavolo ha preso poi tutta una serie di, praticamente tutto, dai cartoni animati in cui c'era il gioco da tavolo delle Tartarughe Ninja, di qualsiasi cosa, e c'era anche il gioco da tavolo di Doom, che però non ho provato. Tra l'altro qui sto vedendo che ce n'è anche uno per il Doom 3, a meno che, quindi insomma si vede che queste cose hanno continuato a proliferare, quindi se girava. Beh, comunque sicuramente avrà fatto successo. Adesso non so se hai qualche dato, se sai se ha venduto parecchio. Questa... dati, purtroppo no, penso che in qualche modo fra gli appassionati un riscontro più o meno grande ci sia stato. Ricordo che ai tempi le miniature di Doom ebbero un certo riscontro, questo sicuramente, quindi qualcosa da questo punto di vista si può dire che si è mosso. E poi sì, da lì bisogna vedere un po' appunto quello che è la passione di ognuno. Diciamo che i giochi in scatola, comunque anche una puntata di Archeologia Videoludica ne abbiamo parlato, non hanno mai avuto questo gran successo in generale, però i giochi da tavolo con le miniature hanno sempre un fascino particolare, perché qui per esempio la versione, perché stavo vedendo un tabletop che si chiama Doom qualcosa, ha queste miniature da dipingere e assomigliano molto a quelle di Mutant Chronicles, che era un altro gioco, perché poi ci sono queste similitudini che ogni tanto mi vengono con Doom, Mutant Chronicles, non so perché, forse il design cyberpunk dei mostri, qualcosa del genere. Comunque è davvero una cosa interessante questa dei giochi da tavolo, perché anche loro hanno preso un po' tutto dai videogiochi, quindi Doom ha colpito proprio ovunque. Sì, beh, io direi che diciamo che una disquisizione generale è stata portata avanti chiaramente non in maniera completa, perché riuscire a inquadrare in una semplice puntata quello che è l'effetto Doom, la Doom Generation, gli impatti di questo fantastico gioco, probabilmente non è così facile. Però diciamo che secondo me siamo riusciti a dare alcune parti interessanti, magari qualche curiosità che non tutti conoscevano. Adesso non so se tu vuoi accennare un po' ai capitoli successivi, dare qualche accenno Sì, due righe, anche perché la notizia di oggi, poi non so quando ascolterete il podcast, però è la notizia di oggi che per tutti quelli che preordinano, perché ormai c'è questa cosa, no? Per tutti quelli che preordinano Wolfenstein The New Order, che è quella roba pazzesca che io non so adesso, però è ambientato nel presente come se i nazisti avessero vinto e hanno dei mech, dei robot, quindi non so realmente, poi bisogna vedere il gameplay, perché Wolfenstein è nato, no, con col 3D, con Wolf 3D, però Return to Castle Wolfenstein è un altro gioco che ha contribuito molto all'immaginario multiplayer, anche perché c'era la versione gratuita che era Enemy Territory di Wolfenstein, che Wolfenstein, vabbè, insomma c'era questa versione gratuita Enemy Territory che introduceva un'altra cosa in più nel filone multiplayer, ovvero sia la parte di coordinazione con il proprio team, che molto spesso non si vedeva, no, nel multiplayer di Doom o nel multiplayer di Quake. Invece questo titolo, Return to Castle Wolfenstein, aveva proprio, oltre a un single player molto bello che prendeva completamente spunto, no, dal titolo originale, quindi c'erano questi level design con i segreti, con insomma molte cose da esplorare, un po' labirintici, con mostri pazzeschi, per esempio c'era il mostro che camminava con le mani, con i raggi elettrici che gli uscivano dal busto, aveva questo aspetto multiplayer molto accentuato grazie a Enemy Territory. Questo nuovo Wolfenstein, quindi un po' di accenno così contemporaneo, è soltanto un titolo single player, non c'è niente di male in questo, però dicono che sarà molto story driven, quindi ancora una volta probabilmente faranno vertice sul personaggio, sull'icona di Blazkowicz, no? Quindi di questo personaggio che a quanto pare è molto carismatico, e bisogna vedere se il gameplay comunque manterrà lo stesso feeling. Temo di no, però la cosa più importante da dire è che chi preordina questo gioco in uscita a maggio avrà l'accesso alla beta di Doom 4, quindi siamo al quarto capitolo di Doom. Il terzo l'ho giocato, tra l'altro di recente, non so se un anno fa o qualcosa di più, è uscita una versione rimasterizzata con un aspetto grafico, con un aspetto tecnico all'avanguardia, quindi texture in HD eccetera eccetera. Devo dire che mi è piaciuto Doom 3, mi è piaciuto molto, devo essere sincero, però aveva delle scelte di design che erano, secondo me, sono tuttora inferiori al Doom originale, in particolar modo il level design. L'atmosfera generale era ottima, anche se il punto focale era perché il Marine deve tenere la torcia con la mano, cioè c'è il taschino qui, ce l'hanno anche, ce l'ho io quando vado al lavoro, c'ho il taschino della camicia, uno se lo ficca lì, si faceva in Silent Hill, non vedo perché non si può fare in Doom 3. Poi c'è stata tutta la cacciare, no, è per l'atmosfera, bla bla bla, però in realtà non ha spiegazione, è come se tu sei un Marines in Aliens e invece di avere la torcia attaccata alla fascia che c'avevi in testa, all'elmetto, ce l'avevi in mano, quindi da una parte tenevi il fucile, dall'altra c'avevi la torcia, ti arrivava l'alieno che ti sputazzava l'acido in faccia, però intanto magari la torcia continuava a funzionare perché l'avevi in mano, non ha senso, ok? Poi anche il design dei mostri era molto figo, però gli zombie all'inizio erano tutti uguali, quindi però è un buon titolo Doom 3, anche lui poi aveva la caratteristica di essere molto moddabile, e questo è un altro aspetto importantissimo secondo me di un videogioco, perché dove non arrivano più i game designer arriva la community, e ci sono degli aspetti per quanto riguarda i mods eccezionali per altri titoli, quindi parliamo di strategici come la saga di Total War, che senza il supporto dei mods non sarebbe dov'è, Doom 3 stesso senza il supporto dei mods non sarebbe quello che magari è oggi, ovvero sia un buon titolo. Quindi comunque ci sono molti titoli che, pur avendo delle pecche di gameplay abbastanza profonde, vengono comunque sanati dall'intervento della community, e questa è la parte secondo me più importante, il fatto di poter creare un circolo di persone, un vasto circolo di persone dedicate al videogioco, non soltanto in quanto giocatori, ma proprio in termini di scrittura di codice, idee, quindi aggiungono vitalità a un gioco. Oggi si compra un FPS, quanto ci hai giocato? L'ho finito oggi, l'ho preso oggi, e dopo basta, lo chiudi, hai finito. Invece se hai titoli come Doom, Doom 3, ti scarichi le mods e in teoria ne hai da qui fino alla fine dei tempi, no? Perché ci sono tantissimi mod per Doom 3, però sicuramente non è stato il capolavoro che tutti si aspettavano. Poi è sempre difficile, no? Uno porta un'eredità fortissima come quella di Doom, la gente si aspetta di avere qualcosa di eccezionale, però come si fa a creare qualcosa di altrettanto potente a livello di impatto come lo era Doom? Non c'è, anche Quake ha subito lo stesso destino, senza citare il grandissimo e immenso Duke Nukem Forever, che è un altro titolo che doveva resuscitare le sorti di Duke Nukem 3D e invece ha resuscitato soltanto i morti, perché proprio si erano rotti le palle, diciamoci così, di giocare a quel titolo, perché Duke Nukem Forever è un titolo uscito nel 2010, quando è uscito più o meno in quell'epoca lì, che però era finito nel 2001-2002 forse, probabilmente, non lo so. Però bisogna capire che quando escono questi titoli che cercano di riportare in auge i grandissimi capolavori del passato, non è mai semplice, pochi ci sono riusciti, e devo dire che Return to Castle Wolfenstein ci riuscì con la saga di Wolf 3D, introducendo degli aspetti davvero molto importanti per quanto riguarda il multiplayer. Comunque, riuscirà il prossimo Doom 4 a restituire un altro Doom interessante nella saga del destino degli FPS? Non lo so, sinceramente non lo so. Già il fatto che ti dicono: ah, ma se tu preordini quell'altro gioco ti diamo la beta di questo, bah, non lo so, perché anche lo studio che fa il nuovo Wolfenstein non è lo stesso di quello che fa Doom 4, ovviamente. Molto ovviamente sono sviluppati, anche perché il nuovo Wolfenstein è distribuito dalla Bethesda, se non erro, insomma. Quindi ci sono un po' anche il nuovo Doom 4, probabilmente, non lo so. Però insomma, capite bene, quando uno dice preordinate il gioco che vi diamo la beta, non si sa quando, non si sa perché, però avrai l'opuscolino con la CDK che tu lo vai a inserire e poi accedi alla beta. Certo, probabilmente avrà un indirizzo più multiplayer, però dopo Doom, diciamoci le cose come stanno, dopo Doom la saga ha visto un buon Doom 3, un ottimo Doom 2, anche se era più, cioè era più completo, no? Rispetto a Doom aveva sicuramente un aspetto tecnico più importante, come giustamente avevi accennato anche tu, però non abbiamo più lo stesso feeling. Io forse sono più della teoria che quando bisogna, che forse bisogna evitare, no, di rievocare queste grandi saghe, bisogna cercare di capire che è difficile rifare la stessa cosa, no? Anche perché siamo noi che abbiamo una certa età, che giocano ai videogiochi, però il mercato gira non grazie soltanto a noi, ma grazie anche ai quindicenni, quindi quelli che sono cresciuti a botte di Call of Duty, per dirti. Quindi bisogna anche ragionare su questo. Una grande compagnia che fa un videogioco moderno con un nome comunque vecchio, che ha sì una forte base di appassionati, rischia forse il triplo, ok? Perché rischia, uno, di non far contenti gli appassionati, la community che è affezionata al Doom originale, e se mantiene le stesse meccaniche di Doom fa contenta quella community lì, però fa scontenti i quindicenni, che molto probabilmente vogliono qualcosa di diverso, quindi non lo comprano. Quindi ci sono, sì, il gameplay sarà molto bello, il videogioco sarà bellissimo, però non venderà niente. Quindi bisogna anche entrare un po' in queste fisiologie di pensiero delle case, se no non avremmo tantissimi titoli su Kickstarter che cercano di portare altri generi in vigore che magari sono andati un po' perduti, non so perché. Ecco, bisogna vedere, perché Doom 4 non abbiamo ancora niente sotto mano, cioè non c'è ancora praticamente nessuna immagine. Sappiamo che è stato annunciato, sappiamo che ci sarà una beta, se preordinate Wolfenstein The New Order avrete l'accesso alla beta, però immagini non ce ne sono. Vedremo, però secondo me dopo Doom non c'è stato proprio, è difficile, insomma, perché stiamo parlando proprio di un titolo generazionale, no? È molto complicato. Infatti Street Fighter cosa ha fatto? Cioè, furbamente, un altro titolo che anche tu hai citato prima, che abbiamo citato prima, no? Street Fighter 2 alla fine ha sempre mantenuto la stessa formula di gameplay, e guarda caso quando ha provato a cambiarlo con Street Fighter 3 Third Strike, che aveva un gameplay completamente diverso da qualsiasi altro Street Fighter visto prima, non ha avuto gli stessi introiti di Street Fighter, dei Street Fighter precedenti. Rimane un gioco comunque con una community molto forte, di nicchia oserei dire, però davvero di impatto anche lui, E io non nego che Street Fighter 3 è uno adesso scusate la digressione, però non nego che Street Fighter 3 sia un gioco che personalmente mi piace moltissimo. Però guarda caso, il capitolo di Street Fighter 4 riprende le meccaniche di Street Fighter 2, dell'originale Street Fighter. Quindi bisogna capire bene se Doom 4 cercherà di fare la stessa cosa oppure no. Sono un po' come dire, dei labirinti per le idee dei designer. Devono un po' capire dove andare a parare, se effettivamente vale la pena investire su un certo tipo di gameplay. Quindi se fare lo stesso level design sicuramente non ci sarà, probabilmente vedremo, perché ormai non si usano più avere i segreti. Solo nel mondo dell'indie, no? Ci sono un po' di cose nuove. Mi viene in mente, ecco, il remake per esempio di Shadow Warrior, che è un altro titolo che invece prende spunto da Duke Nukem 3D, che è stato anche lui, e lui è uscito nel 97 se non erro, Shadow Warrior, non so se ti ricordi, quello con lo Wang. Ecco, il remake sono stati molto furbi, perché hanno detto ok, dobbiamo riproporre un gioco vecchio che comunque anche lui ha una nicchia di appassionati, non è sicuramente Duke Nukem 3D, ma utilizzava lo stesso motore, lo stesso stile di gameplay e aveva l'icona, no, del personaggio Lo Wang. Poi quello è un altro titolo che si è beccato tante di quelle critiche, perché c'era il fatto della critica contro i giapponesi, perché il gioco prendeva un po' per il sedere, no, i giapponesi, questa è una cosa abbastanza chiara, quindi ebbe molte critiche. Però i Digital Revolver, se non erro, che hanno fatto il nuovo titolo, il remake di Shadow Warrior, hanno completamente cambiato il gameplay, pur mantenendo qualcosa di altamente old school, e ci sono riusciti. Però insomma, il gioco ha venduto, ma non quanto magari ci si aspettava. È un po' difficile capire, anche per questo è un Doom 4, non so come sarà. Personalmente Doom 3 mi è piaciuto, ma non aveva sicuramente lo stesso feeling di Doom. Vedremo. Insomma, se volete provare la beta, compratevi Wolfenstein The New Order e vedremo anche. Quindi direi che possiamo ringraziare sicuramente Mashiro per questa carrellata che ci ha portato un po' fra il passato e il futuro, e direi estremamente interessante. Quindi ci ricorda quanto un titolo del 93 abbia impatti e influenze anche su titoli che escono nel 2014, e viceversa quanto magari titoli moderni in qualche modo cercano di recuperare alcune sensazioni, alcune idee che magari sono state un po' perse nel tempo. Peraltro, come avevamo accennato anche in un qualche battuta fa, Doom non ebbe solamente riscontri positivi, pur appunto nella sua importanza, nella sua concretezza, ma anzi ha avuto anche alcune cadute di stile, alcuni remake fatti in maniera postuma abbastanza divertenti. Diciamo che in qualche modo c'è una parte divertente anche del fenomeno Doom che il nostro caro amico Marco ci ricorda nel suo spazio. Quindi adesso direi che con grande richiesta, quindi preparatevi a fare qualche risata, qualche sorriso, magari con in mano il vostro browser per andare su YouTube, lasciamo la parte a Kittes and Google. Vabbè, io mi trovo mo davanti a sta porta che non mi vado ad entrare, perché sono mancato la puntata perché c'avevo la febbre. Mo se devo entrare dentro al frigorifero è un cazzo, è tutt'uno. Comunque vabbè, provo, busso, magari non c'è. C'è nessuno? Chi è? So io. Ah ma Simo, entra dai, tranquillo. Sì, però potremmo uscire dopo? Ma, no. ma non ti preoccupare, entra, che ho preparato una cosa. Vieni dentro, entra. Beh, entra. Ecco. Sono entrato, dove stai? Non si vede quasi niente. Vieni, aspetta, accendo la luce? No, ma che è sto rumore? Questa atmosfera inquietante. Beh, perché ti sei sempre lamentato che siamo dentro un frigorifero, e io adesso mi sono organizzato e ho fatto una, diciamo, escursione spazio-temporale. Stavo dentro un livello di Doom. Infatti sento tutti i grugni di cose, è un po' brutto, ma mi sta venendo l'angoscia, cioè, era quasi meglio il freddo. Ma scusa, tu ti sei lamentato del freddo e mo te prendi Doom. Vabbè, ma tu non capisci, a me quando ero ragazzino sto gioco mi traumatizzava, cioè mi faceva paura. Io giocavo e c'avevo paura, quindi sentisti questi grugni, questi suoni. Guarda, io vicino qui c'ho la leva, c'ho frigorifero on e frigorifero off. Ma adesso sta off, che faccio? Frigorifero on? Ma guarda, non lo so, adesso famo in fretta allora. No, famo in fretta, anche perché qui c'è sta un caco demon. Che lo vedo che sta successo. Fa il cago demon. C'ha l'occhio un po' che sta strizzato, quindi vabbè. È concentrato forse. Sì, ce ne andiamo, aspetta un secondo. Allora, mettiamoci seduti su questo. Che cos'è questo? Un torso umano? Mettiamoci seduti. Mamma mia, che impressione, guarda, veramente poi sta qui ci stanno i torsi umani, non c'hanno le sedie, questi suoni proprio brutto. Aspetta, brutto. Premi quel triangolo sul muro. No, io... no, quello non è una trappola. Premi il triangolo e non ci arrivo, se no lo facevo io. Ecco. Premi. Oh, ecco, vedi, adesso si è tirato su, adesso si è acceso il monitor. Il monitor. Che cosa c'è su questo monitor? Allora, prima di tutto, prima di andare però al monitor, visto e consigliato che Mashiro e quell'altro lì, come si chiama? Quell'altro Roberto. Hanno parlato durante la puntata di come sarebbe Doom oggi. Una gran merdata. Io me lo so visto, sai. Me lo so visto pure io. La cosa divertente, sai qual è? La cosa le frecce, no? La zona di guerra, che non bisogna abbandonare la zona di guerra. Che se tu vai da un'altra parte, che ne so, fa l'esplorazione, c'hai 10 secondi, 5 secondi e torna indietro. Insomma, vabbè, vedetevelo. Insomma, sta nelle note dell'episodio. Adesso noi non l'abbiamo contemplato nel Kids in Google perché chiaramente già l'avevano parlato. Parliamo, basta, no? Parliamo insomma di un po' di robe. Sì, ho scartabellato, in realtà ce ne sono milioni di gozillioni di video, perché cioè Doom è un po' come parlare di guerre stellari e pensare di non trovare nulla su internet. Esatto. Quindi, cioè, anche se io una cosa non l'ho trovata. Cosa? La leggenda urbana? La leggenda urbana che si diceva che Steven Spielberg nella sua a casa sua, dentro una Indigo, dentro una Silicon Graphics, cioè, ha installato una versione di Doom a risoluzione tipo 3000x3000, capito? Quando noi stavamo a 640x480, però ho provato a vedere ma che ce lo vedo Spielberg che gioca a Doom, insomma, è proprio... Ma no, ma che gli fregava, lui era proprio perché gliel'avevano installato come dimostrativo, capito? Perché lui... Ma penso che non l'ha mai acceso, allora. Probabilmente no. Pensa quanti computer che tu hai sognato nella tua vita e che non hai mai avuto e che lui ce l'aveva, magari neanche lo usava. Ma io direi di andare subito a vedere, invece, restando sempre in tema di come sarebbe stato Doom, non so, con un VIC-20? Ah, vi lo siete mai chiesti come sarebbe stato? Non vuoi parlare della pre-alpha? No, la pre-alpha ce la vediamo dopo. Ok, allora, come sarebbe stato se fosse stato un VIC-20? Un VIC-20 sarebbe stato colorato. Allora aspettate che c'è un momento di impasse, però sarebbe stato insomma bello colorato con il teschietto, anche con un po' di suoni, no? Sì, insomma. Il logo Doom quasi credibile, ovviamente col menu, col teschietto e tutto quanto, una certa riproduzione, però poi quando entri la parte del gioco, il gioco è un quarto di schermo, sì, ma anche di meno, anche di meno, e considerando il fatto che c'era, quanto diceva, 200x200 pixel, ne usa 10x10, però insomma, vedi, alla fine, insomma, lo squagliamento dei corpi ci sta, insomma, quello è uno zombie, la faccia da zombie che muore, però insomma anche quelle animazioni abbozzate sono fatte, sì, bene, la risoluzione bassissima con 8 colori, è chiaro che quello che esce fuori insomma è considerate poi, comunque stava a parlare del VIC-20, però l'interfaccia sotto, quella là dell'omino, che si guarda a destra, a sinistra, sospettoso, quella c'è, quella c'è, insomma, ecco, ricostruita abbastanza bene, si porta via il 50% delle risorse della console, però se avessi un VIC-20 sicuramente non ci giocherei, però mi stupisce il fatto di vedere che in una macchina come quella a oggi ancora, cioè, è possibile insomma far girare un engine in 3D. Chissà perché non ci hanno pensato. Allora, non era forse proprio nelle corde, insomma, diciamo che no. Diciamo, questo è, se tu avessi un VIC-20, lo giocheresti? Non lo so. Giro la domanda, se tu fossi un oculista e avessi dei VIC-20, li regaleresti? Sì, forse sì. Ma è vero pure che se avessi un VIC-20, la curiosità di vedere un engine in tempo reale in 3D che gira sul VIC-20 ce l'avrei, però è vero pure che secondo me questo qua a tempo 5 minuti squaglia il computer, una cosa del genere, insomma. Penso che sia sotto ghiaccio, neanche lui dentro il frigo probabilmente, anche usa... lui probabilmente, sì. esatto. Vabbè, io diciamo che ci sono straziati le retine abbastanza, guardatevelo, insomma. Perché mi sa che ne abbiamo già parlato comunque nella puntata quella quando parlavamo del VIC-20, non vorrei dire una cosa insomma, però se l'hanno fatto per VIC-20 ci sarà a morire. No, dico, se l'hanno fatto per VIC-20 anche poi... per il VIC-40 no. No, però per il suo successore, no? Per il Commodore 64, e ovviamente utilizzando colori, definizioni, allora sì, diciamo che invece di 8 colori ce n'hai 16 e anche li spruzzati nel video così a cazzo di cane, esatto, però... nel senso, poi a full screen, però a full screen ovviamente raddoppiando i pixel, cioè nel senso degradando ancora di più il dettaglio grafico, la risoluzione, perché praticamente qui i pixel sono grossi tipo 4x4, un pollice, una cosa del genere. e non si capisce niente, cioè nel senso, no, vabbè, forse si capisce, fantasia, sì, si capisce più quella del VIC-20 secondo me, cioè, sì, vedi? Cioè, se tu vedi i mostri sono si praticamente confondono, quello dovrebbe essere un smurfo un buffo buffo gigante, si confondono con il resto dell'ambiente e questo lo rende il gioco ancora più difficile, certo, perché tu non sai mai se stai sparando a un muro o a un nemico, e le porte sono delle cose nere, poi, esatto, tra l'altro poi ci passi attraverso, però vedi se sono gli schermi del computer, ecco, attenzione, c'è qualcosa che si muove, sì sì, laggiù c'è un nemico, non è lo smurfo di prima e poi ce n'è un altro dietro che muore forse, sì sì, vedi di... che esplode, quindi esplosi, questo vabbè. Cos'era? Non lo so, vabbè, comunque vabbè, vabbè, sono... c'è una versione dopo anche, non so se tipo un una specie di versione moddata sempre per Commodore 64 che Marco sostiene che è la stessa, noi mettiamo tutti e due i link perché non, per non sapere né leggere né scrivere, ma secondo me non è la stessa, cioè, secondo me il dettaglio grafico è diverso, cioè nel senso che vedi, a parte che vedi ci sono quelle ventole che magari è un altro livello, ma secondo me è proprio boh. Però vedo, forse lo smurfo è diverso. Probabilmente sì, cioè, ma il gioco è lo stesso. Forse hanno utilizzato. Forse hanno migliorato, magari una versione migliorata. Oppure hanno utilizzato perché questo qui è emulato, secondo me. Hanno utilizzato delle librerie migliori, ecco, che ecco, ti giusto. Devo dire, insomma, quindi c'è qualche cosa di diverso. Non siamo comunque c'è il puffo con gli occhi, attenzione, una palla tipo un Pac-Man gigante. Sì, esatto. È essere... la versione tra il Pac-Man e il fantasmino. Ho visto Pac-Man. Il cacodemon che strizzava l'occhio, insomma, è una cosa molto non so perché, però. Insomma, dategli un occhio perché pure Commodore 64 riesce a fare cose. Se, secondo me se non mettevano le texture sulle pareti era meglio, comunque. Sì, però andiamo a quella che forse è la versione migliore, quella che rende veramente giustizia, esatto, nonostante tutti i difetti, i problemi, Color Clash, insomma, ne stiamo parlando in un video proprio pubblicato recentemente su Archeologia Informatica su YouTube, che poi magari metteremo il link anche all'episodio visto che l'abbiamo citato, insomma. Doom per il ZX Spectrum, che non solo l'interfaccia è praticamente identica, ma anche il menu è identico. Esatto. Proprio... C'è persino il teschio in pseudo 3D. Che rotea, esatto. Che rotea, proprio come quello di Doom. È vero che la faccia del personaggio sembra quella di un pirla, però... sì, infatti è un po' strano. Però, cioè, ci sono delle chicche tipo, ecco, il teschio 3D che gira finto 3D, ovviamente, però è spettacolare. E addirittura il gioco è giocabile. Il gioco è anche giocabile perché si capisce quello che stai vedendo. Esatto, a parte che qui forse stava in full screen e magari... Sì, infatti dei pixel a cazzo di cane. Forse è interlacciato, vediamo. Option, screen... Full screen. Il secondo tipo di full screen. Okay, che infatti diventa più chiaro e non ci stanno le interlinee praticamente, quindi si vede un po' meglio. E come si dice, esce la pistola e spara. E spara, che c'è una mano gialla il tipo, però... Pixel colorati a sbafo, così, però... Chiaramente Marco mi domandava, ma sti giochi li programmano e poi dopo che ce fanno? Beh. No, la domanda è, sono completi? Ah, ecco, giusto. Nello specifico non credo che siano completi, anche se non ho informazioni, magari se qualcuno già lo sa, però penso che siano più demo per far vedere, oh, vedi oggi se lo programmavo io 20 anni fa, guarda che te facevo. C'avevo gli sordi. Avevo fatto Doom 20 anni fa. Ci avrebbe avuto gli sordi. È comunque affascinante vedere il fatto che su ste macchine, insomma, si potevano fare anche cose del genere. Ribadisco, a parte il discorso del Color Clash, è comunque la versione che si capisce meglio. Sì. Beh, diciamo che rispetto a quella del 64 che è quasi da suicidio, questa qui perlomeno sai che c'è una mano con una pistola. Ma anche i mostri, vedrai, mo adesso... Sì, i mostri sono più riconoscibili rispetto ai classici, insomma. Quindi direi tra le tre, questa sicuramente è la sufficienza, le altre due. Sì. Le bocciamo, dai. Certo, certo, è chiaro che è sempre pure qui la... Ecco, vedi, c'è il mostro che... È ingiocabile uguale, secondo me. Sì, però. Sì, certo. Però tra i tre, bravo. Lo ricorda di più. Bravi, bravo, ZX Spectrum, bravi. Veramente ci sei piaciuto. Veramente sono momenti. Però di anche gloria, recuperando, anche tra l'altro, una delle versioni pre-alpha che girano, insomma, dove si fa vedere che cos'era Doom proprio prima che fosse Doom. Quindi penso che sia proprio un dimostrativo dell'engine. L'engine, non si dice engine. No, si dice engine. Comunque, qui potete vedere dei simil quadri, simil livelli, con dei simil nemici che stanno fermi a passeggiare su se stessi. Però era per far capire che cosa sarebbe venuto fuori, non so se sono prove di texture, prove di illuminazione. Questo è uno dei livelli, questo è un livello vero, sì, lo ricordo anch'io, mi sa. E sì, poi questo ovviamente senza texture, cioè con le basi proprio, però insomma questo qui è giusto per rendersi conto di come hanno sviluppato poi il gioco che avete conosciuto e che conoscete fino oggi, finora. Ovviamente anche questo rispetto a quello dello ZX, insomma, qualche cosa più ce l'ha. Beh, bravi anche questi, questo, bravi. Questo è quello vero. Bravi anche voi. È semplicemente la demo, insomma, la pre-alfa dei livelli, dove ovviamente esploravano per vedere se il motore grafico aveva dei problemi o se dovevano aggiustare qualche cosa. Ma se poi possiamo giocare al 64. Ecco, diciamo così. Non avete parlato del Nintendo 64? No, non c'entra niente, infatti. Però vabbè, ci è venuta la curiosità e siamo andati a vedere un attimo. Forse perché anche a Marco gli è venuto un momento di revival, un momento di tristezza. E ho deciso di vedere il vecchio e buon caro Doom 64, che ho giocato per gigaglioni di mesi. Era bellissima, stupendo. Cioè la versione del Nintendo 64, solo quello. Esatto, e Superman. Superman 64, che insomma capirete bene che tra i due anche, cioè, questa era sicuramente meglio. E insomma era un gioco che veramente l'angoscia, ti metteva l'angoscia, lo giocavi di sera, era veramente fantastico. Beh sì, un po' comunque Doom, un po' destrigna. Il primo in particolare, proprio con questi grugniti, questo effetto 3D che era la prima volta che lo vedevi, capito, così immersivo. E tutto sommato devo dire che quello del Nintendo 64 è invecchiato bene, dai, tutto sommato. Non è male, infatti. Non l'avevo, cioè l'avevo visto, forse ho visto quello per PlayStation, non mi ricordo, però vabbè. Ok, e veniamo, come dicevamo, insomma, abbiamo cercato questo mito, insomma, questa leggenda metropolitana, non l'abbiamo trovata, ma insomma abbiamo trovato, Marco, un po' di mods simpatici, come innanzitutto ci segnalano i colleghi, diciamo così, di Games Radar, e c'è questa pagina che vi linkiamo, dove ci sono contenuti mod più strani, più asburgici, e tra cui quello di Sonic, cioè il mod di Sonic in 3D, che praticamente è Sonic con il motore di Doom, perché addirittura è in terza persona. Anche perché prima persona, farlo vedere che rotola, sarebbe stato un po' spruzzo. Però con quell'altro suo compagno, insomma, con l'altro con collega, Mario. Invece, esatto, hanno fatto invece. Che dopo c'è anche quello di Mario. Devo dire che praticamente hanno fatto sto platform in 3D in terza persona che non è esente da piccoli problemi. Sì, vabbè, chiaramente non è progettato per essere questo, però insomma, devo dire che ci sono impegnati. Se la batte. Sì. Quasi verrebbe voglia di giocarlo. Sonic, insomma, sì. Anche il level design non è manco malaccio, insomma. Tutto sommato, sì, ricorda molto l'originale. Quindi, insomma, complimenti per questo mod. Bravo, sappiamo chi sei. E poi c'è A Fistful of Doom, che è praticamente la versione western. Esatto. E qui ogni volta che tu ammazzai qualcuno. Quindi qui trucidamento di sceriffi, di cowboy, ovviamente con Winchester, ma se non sbaglio ci sono anche i Condor che si appollaiano, eccoli, sui cadaveri. Insomma, beh, ti hai questo non è un semplice mod. È una conversione, è un total conversion. Sì, perché insomma c'è proprio un lavoro dietro, ovviamente c'è tutta la ricostruzione ambientale, le scenografie, lo scenario western, quindi insomma devo dire che è veramente un lavoro fatto carino. E qualcuno potrebbe dire, ah, ma è Outlaws, quello di LucasArts. No, non c'entra niente, guardatelo, insomma, che... E poi che cosa dire? Ovviamente dopo il cowboyismo c'è anche l'acchiappafantismo, quindi qui c'è Ghostbusters, hanno ricreato l'intro praticamente di Ghostbusters. L'inizio, diciamo così. Esatto, quindi l'ingresso dentro la libreria, anche se poi ci hanno messo qualche fantasma ad cazzo. In realtà, come potete vedere se voi guardate il link, non c'è il fucile protonico, non c'è. C'è il rivelatore di fantasmi, cioè quello classico che fa casino quando c'è lo spirito vicino, e che emana raggi antifantasma, che praticamente i famosi raggi disgregatori di fantasmi, che praticamente disintegrano gli spettri. E questa cosa qui, insomma, è un po' una gran cazzata, diciamocelo. Però, insomma, per dirlo in francese, poi. Sì, anche perché insomma, alla fine, se ci hai messo, se hai ricostruito quello, potevi rimetterci un fucile ad cazzo e faccio un fucile protonico. Però poi devi metterci pure una trappola. Troppo troppi casini. Sì, sì, diciamo che l'hanno fatto peggio che là, però tutto sommato la musichetta, l'ambientazione e anche lo scenario, insomma, però c'è pure il fantasma dell'archivista. Esatto, esatto. Infatti devo dire, ma andiamo avanti che... Poi c'è un altro mod che secondo me, non so, secondo te è una cazzozzeria. Sì, abbastanza una cazzozzeria, sì. Però insomma potrebbe anche starci volendo. Ed è il mod di Batman, che però va di notte con le scarpe tutte rotte, eh? Tra l'altro un bellissimo vinto, ce la faccia da mamma mia, cioè... inguardabile. Guardatevelo, perché proprio c'è, nel senso, l'indegnità proprio, ecco, esatto, diciamo. E lancia i batarang, cioè i boomerang, sì, boomerang a forma di Batman contro creature che sono dei semplici criminali alti, girando alti, che sono più doppio alti di Batman, esatto, che... Batman nano, no, Batman nano appunto. E questi livelli, il level designer è il Joker proprio, perché insomma si vede tutti i muri colorati, cioè, hanno un po' buttato dei colori così a cazzo. Secondo me forse lo scopo era quello del Batman della serie televisiva degli anni 70, secondo me, sì. Può darsi, perché quando tu tiri il boomerang addosso al cattivo, c'è la scintilla, quella fumettosa, no? Che si usava nel comunque veramente una gran porcata, devo dire, porcata. Cioè, tra tutti, originale, carina l'idea, insomma, meglio, insomma, sì, hanno fatto di meglio, insomma. Per esempio poi c'è il Super Mario Doom. Ah, Super Mario Doom è fantastico. Vi siete mai chiesto come ci si sente essere Mario? Lo siete mai chiesto come, ma non come ci si sente essere Mario, cioè essere continuamente scaricati dalla tua principessa che devi andare a salvare, proprio a essere in prima persona, esatto, a vedere quello che vede lui proprio. Questo video, che praticamente è un video di un mod, che appunto Super Mario 2, no? Vi scoprirà, vi permetterà di scoprirlo, quindi un po' disorientante, devo dire. Sì, verrete catapultati in questo mondo platform, quindi però in prima persona, sì, che si sviluppa in lunghezza in prima persona. Ci sono i funghetti nemici, ma le tartarughe. Perché gli spara? Mario non spara. Spara, non so. Beh, forse perché qualche cosa deve fare, se no che fai? Cioè, su prima persona. Ah, c'è pure il teletrasporto dal. No, si è semplicemente buttato. Sono i Koopa, vedi i Koopa volanti. Il Koopa è una tartaruga. E il Koopa volante. Tu sai che per me l'ambiente di Mario è anche. Ma anche per me, però la BZ lo so. E qui vediamo appunto Mario muoversi in questo ambiente in 3D, che però si sviluppa in lunghezza. In lunghezza, sì. È come un platform. Esatto, quindi ci sono gli ascensori, i funghetti, allucinogeni, c'è di tutto. Quindi tutto quello che è il bestiario di Mario, che fa anche lì. Ma se sei tartaruga che rompe il cazzo. Se qualcuno gli piace talmente tanto, insomma. Si potrebbe andare a scaricare. Rimediatevelo e giocateci. Perché veramente... E poi ci fate sapere se sopravvivete. Se sopravvivete, perché per me è veramente una follia. Solo guardarlo mi disturba. Quindi figuratevi, insomma, a giocarci. Penso, mi ricorda un livello di Shadows of the Empire, di Guerre Stellari, un vecchio gioco, dove c'era un livello dove il protagonista, in questo livello, doveva saltare con un jetpack da un cucuzzolo di roccia a un altro cucuzzolo di roccia prima che si esaurisse il jetpack. Mi faceva venire un'ansia assurda. Forse me lo ricordo pure io, sì. Dopo, quando chiudiamo, me lo vado a vedere. Ecco, ce lo riscopriamo. Poi che altro mod ci suggeriscono? Vediamo un po'. Poi qual altro mod ci suggeriscono? Questo di Mario, insomma, è carino. Poi ce ne stanno altri, comunque, di Mario, ve lo potete tranquillamente. Sì, sì. Poi ci sono alcuni mod di fantasia come Void, che praticamente è un po' allucinatorio, mette un po' Lovecraft, un po' Alice nel Paese delle Meraviglie. Ah, sì, questo è proprio disorientante totale. Che fa uno speedrun, quindi sarà imparato a memoria questo mod. Io sto già. Forse se l'ha inventato e poi lo sarà imparato. Sto cominciando a vomitare adesso. Sì. Non perché sia brutto, perché ho giocato magari. Dà un po' fastidio a guardarlo così. Da un fastidio, cioè, si vede lui che zompa addosso alle pareti, non si capisce che, cioè, chiaramente sì, con dei gargoyle che vengono presi a cazzotti, vabbè, insomma, sicuramente ha la sua particolarità, però giocato così veloce magari rende molto poco. No, però ci sono dei punti in cui disorienta proprio il senso della spazialità, in particolare, insomma, devo dire che chi l'ha fatto, insomma, era abbastanza disturbato. Guardatevelo. E poi c'è anche un bellissimo Doom Rider, no? Perché Doom Rider, esatto. Vi siete mai chiesti che cosa significa, come ci si sente essere la Lara Croft? In prima persona, sempre. Esatto. Purtroppo non è permesso guardarsi le tette. No, non quindi è. Anche solo... perché sei un uomo, comunque. Esatto, quindi ci sarebbe una doppia problematica in tutto questo. Però puoi giocare insieme a un nano arancione, come potete vedere. Si gioca in cooperativa. Esatto, si può giocare in cooperativa. Però nonostante che sei in cooperativa, tu puoi uccidere i tuoi sì, amici. Ovviamente, per sbaglio, sempre per sbaglio. Cosiddetto fuoco amico. Anche qui ci sono, c'è il solito bestiario di Doom, i vari mostri di Doom. Non ho ancora capito qual è lo scopo. Ovviamente esplorare la tomba e trovare strade. Ma veramente non si è capito neanche come ha fatto ad aprirla la tomba, quindi figurati. Poi ecco qui, nella prima parte... Ci sono delle scimmie assassine che vengono trucidate, ecco il nano che viene preso a cazzotti. Esatto. Si può passare anche in terza persona. Nei cunicunicoli, ovviamente, quando sono tutti e tre appiccicati, questi che cooperano, si piano a cazzotti fra di loro. Esatto. Ma la cosa bella è che il cunicolo più è piccolo, più si restringe l'omino. Quindi, tipo il paese delle meraviglie, davvero. Vabbè, si chiama bilanciamento della spazio corporeità. Questo si è spiaccicato. Qui si è morto, bruciato da solo. Questa coppa di Doom Rider lo possiamo anche lasciare stare. Sì, insomma, cioè guardatelo, perché anche questa è abbastanza carina e curiosa, ma ecco. Dopo un po' anche Duvalle, sì. Poi sembra c'ha tipo le munizioni infinite, boh, si capisce bene. Va bene, andiamo al Red's Riders, Red's Flooders. Questo. Ce n'è uno bellissimo. Questo è il più Sky bello. Sky Maybe. The Blessed Engine, praticamente Sky Maybe, che praticamente è un gioco di allucinazioni, di cose strane. Potrebbe essere, diciamo, una versione Stanley Parable di Doom. Possiamo definirla così, perché diciamo c'è un'interazione con il giocatore. Si gioca con il giocatore, ecco, esatto. Diciamo così, perché a un certo punto voi, vabbè, a parte ecco, vedi, poi esci e vai nello spazio, quindi c'è oppure questo. C'è una cosa, fermo, non aprire, pericolo, e se tu lo apri ti compare la scritta indosso, te l'avevo detto. L'ho detto che sei uscito, l'ha mandato. E poi c'è di tutto, veramente. E poi vabbè, poi devi il arrampicarti. Il delirio di colori, sì, esatto, di piattaforme, sì, sì. Di scale che salgono verso l'infinito. Devi passare il tempo ad arrampicarti per delle cose, e ogni tanto... Ci sono dei messaggi scritti sul muro e a seconda di quello che tu fai ovviamente ci sono delle conseguenze, e devo dire non l'ho mai giocato questo, non lo farò mai, questo mod, ma è divertente, nel senso ecco ti hanno spiattellato di sotto, ma è divertente perché comunque promette, insomma, diciamo una certa originalità, ecco, rispetto a tanti altri mod, ecco per esempio c'è questa scritta. L'arma che taglia due, per esempio. Sì, ecco, pure questa secondo me non esisteva in Doom. Questo comunque ti chiede se la tua tu... sessione di Windows. Di Windows, okay, o cancelli? Questo premuto cancella. Cancelli e il soffitto lo spiaccica, quindi figurati. Chissà perché poi. Sì, esatto, chissà che succede invece se dicevi sì, vado a Windows. Va bene, e anche questo, insomma, guardatevelo perché questo è veramente divertente e particolare. E poi ci sono anche dei mod, diciamo così, dimostrativi, possiamo chiamare così. Che cosa succede a mettere tipo un trilione di personaggi di Doom, personaggi nemici, si intende, ovviamente, sotto, in un'arena sotto di te, infinito, saranno tipo, esatto, 100.000 sprite, sì, sprite è un po' come Saruman che si affaccia, esatto, al balcone, esatto, e vede i suoi 10.000, esatto, Urukai, la stessa cosa, solo che qui praticamente al posto degli Urukai ci sono dei demoni che poi cominciano anche a picchiarsi tra di loro. Perché praticamente stanno fermi fino a che tu non spari con la tua Big Mac of Fuck Armor Wells. E poi da lì ci puoi camminare anche sopra. Sì, questi. Sì, facendo il surfing e poi camminare tra di loro o su di loro mentre cercano di uccidersi a vicenda. Poi e tu continui. Sei... Ovviamente questo qua è fatto, essendo penso probabilmente un dimostrativo, è fatto con il God mod della Madonna. Esatto, insomma, cioè, nel senso non puoi morire. Ma anche perché, ribadisco, secondo me questi livelli sono proprio costruiti per essere dei benchmark. Sì, sì, ma infatti dopo prova con una risoluzione diversa, ovviamente. E muore, quindi ve lo possiamo... Infatti, muore proprio il computer, ve lo infatti, potete... 1440x1050, tutti gli sliders al massimo, e praticamente c'è il delirio. Certo. C'è un frame rate al secondo. Sì, quando spari e tutti cominciano a sparare, alla fine, cioè, nel senso... Il delirio. C'è un fotogramma al secondo, fantastico. Ciò nonostante, insomma, riesce anche a non crashare il sistema. Quindi. E questo è quello che pensi tu. In realtà poi si è aperta una porta nell'inferno e ha inghiottito l'utente. Se l'ha inghiottito. E c'è invece Poi c'è una strana puzzle ambientale, Cyber Dreams, in cui ci sono teletrasporti, tipo quasi come Portal, dove devi teletrasportare. Guardatelo, ma per me, insomma, ci ho capito una mazza. È una stronzata, insomma, questo è un po'. Puzzle ambientale uniti a Cyber Demon. Questo è, ripeto, non ci ho capito una mazza, però secondo me, se lo guardate fino alla fine e ce lo spiegate, fate un soldo di danno. Che a noi non ce va più che altro. Comunque, sotto questa serie di teletrasporti con i quali devi raggiungere, evidentemente, tramite la combinazione degli stessi, che ne so, degli obiettivi o raggiungere l'orgasmo. L'orgasmo anche, però, insomma, detto fra noi, carino, sì, ma insomma, niente di particolarmente originale. Però, ciononostante, sempre su questo video, andando avanti, sempre col God Mode, insomma, si vede. No, forse non era questo il video. No, era sempre quello lì prima. Era quello di prima, quello di cui stavamo parlando, dei migliaia e migliaia di. No, quello prima ancora. Quello no, di neanche. No, eccolo qua. No, non era questo. No, è quello lì della cosa allucinatoria. Ah, quello della cosa allucinatoria, che è fantastico, perché se voi, e me ne ho dimenticato di dirlo, se voi andate avanti, molto avanti nel video, perché comunque il video non è che dura poco, c'è un. Una specie di arena che lui costruisce, assolutamente folle. Da vedere la rappresentazione grafica, come vengono sparati i colpi. Esatto, cioè, insomma, è una cosa assurda. Non se ne capisce bene lo scopo, ma è veramente interessante da vedere. Bene, io direi. C'è qualche altra cosa? No, vediamo. No, è finito. Basta, abbiamo finito. Sì, c'è la tristezza in tutti noi. E anche Doom ce lo siamo levati dalle palle. Dice, sì. Se vuoi concludere dicendo che sono un tuo ricordo di Doom, quanto ti è piaciuto, se ci giocai, se ti angosciava. Ovvio che mi Ho giocato le Fanta ore a sto gioco. Le Fanta ore, mi ricordo la versione appunto del 64, l'N64, non Commodore 64, l'N64, quando ancora non c'avevo la memory card. Che dovevo salvare il gioco prendendomi il codice finale, perché a fine livello ti dava il codice che tu dovevi reinserire e lui ti dava le stesse armi, le stesse energie fatte da pesca, quindi praticamente era il fine livello codificato in una stringa di caratteri alfanumerici, insomma, quindi era bellissimo. Pensa, non era, però, le volte che mi sono sbagliato a scrivere e le bestemmie se saranno sicuramente sprecate, ma comunque tanti giochi facevano questa cosa qui. Comunque io a questo punto, visto che ho saltato la puntata proprio perché non sto bene, tornerei via, anche che questo posto, ho detto, mi mette un po'. Tu lo so che mi devi fare la scena che vuoi, che ce ne potremmo pure andare, però c'è un problema. Che davanti alla porta c'è sta il cago demo. Cazzo, non c'era il beef faga. No, non me lo so portato. Io pensavo che tu portassi te. Io che cazzo, pensavo a venire dentro un frigorifero. Quando io ti ho detto vieni armato, è pericoloso. Non è che devi portare una boccia di vino. Sono venuto armato per bere, per farsi una cosa così. Vabbè. Senti, fa una cosa. Il cagodemone si è spostato davanti alla porta. Laggiù c'è sta un teletrasporto. Andiamo là. A casaccio. Vabbè. Ciao. Alla prossima. E così eccoci qui dopo il fantastico Kit Esten Google. Ringraziamo ancora una volta Marco per questo suo lavoro di ricerca, che è sicuramente importante e che magari permette di trovare quei riscontri non così classici, o meglio non così scontati, che magari spesso ci sfuggono quando trattiamo i giochi. E purtroppo, come Doom 20 anni fa, anche noi siamo giunti un po' alle battute finali di questa puntata. Puntata che speriamo sia stata interessante per voi. Per noi è stato sicuramente un motivo di orgoglio poterla preparare. E assolutamente. Infatti. E poi, come avete notato, nelle ultime puntate non stiamo seguendo uno stretto ordine cronologico che abbiamo seguito nelle prime stagioni, perché abbiamo voluto buttare un po' nel cantiere alcune tematiche, alcuni spunti che ci sembravano interessanti e che meritavano la nostra attenzione. Questa puntata sarebbe dovuta uscire prima, però per n problematiche non siamo riusciti a registrarla, però ci teniamo veramente a farla, quindi ringrazio ancora una volta Mashiro per la sua partecipazione. Sì, poi diciamo anche che l'annuncio proprio recente della beta di Doom 4 è comunque un altro aggancio utile, no? per Doom, per il destino, perché si vede che una saga che ha 4 capitoli continua a insomma interessare, no, i giocatori. Quindi abbiamo anche colto la palla al balzo per questa, questo annuncio della beta che non si sa quando uscirà di Doom 4. E quindi appunto diciamo che ci è andata bene anche questa occasione. Dai, va, abbiamo colto il pullman in tempo. Ringraziamo Simone Pizzi che, se riuscirà a ritornare, grazie Simone, potrà ritornare alla guida di questo podcast. Dipende tutto appunto se il golpe funzionerà in maniera eccellente oppure se in qualche modo dovrò ritirare le mie truppe. Ringraziamo Marco, ringraziamo anche tutti gli altri membri dello staff di Archeologia Videoludica e direi che se non c'è altro da parte di Mashiro vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Assolutamente, mi raccomando, seguiteci. Esatto, questo direi che è una cosa importante, seguirci. Buona serata e buon podcast a tutti. Ciao a tutti, ciao. A dicembre. Il mio nome è Willy Wonka. Sono una sorta di mago e cioccolatiere. Scopri come Willy è diventato Wonka. Ho un'idea. Da dove cominciamo? Dal cioccolato, ovviamente. Dal regista di Paddington. È buono. E dai produttori di Harry Potter. Troppo buono. Tutte le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno. Perciò tu tieniti stretto al tuo. È tempo di cambiare il mondo. Timothée Chalamet è Wonka. Dal 14 dicembre al cinema.